Allora, buon pomeriggio a tutti. Mentre rientriamo, diamo un po' il senso dell'organizzazione della seconda parte della giornata. Abbiamo pensato che per favorire connessioni e anche interventi da parte di chiunque voglia partecipare ai tre tavoli, andremo in sequenza invece che su tavoli separati. Quindi tre erano i tavoli che ho indicato stamattina e avranno i responsabili che hanno il compito di introdurre, spiegare, precisare, perché ovviamente siamo stati molto rapidi in mattinata e ripeto, essendo questa una struttura seminariale, è una struttura aperta, per cui andando sul link Meet, chiunque volesse alza la manina, si prenota e interviene. Ripeto la struttura dei tre tavoli. Primo tavolo è critica del quotidiano, a cui partecipano Gianluca De Fazio in veste di coordinatore e che poi un po' segnerà le piste, Ubaldo Fadini e Marco Tronconi. Segue, dopo un'oretta circa, il secondo tavolo, critica dell'urbano e sistemi di controllo, dove ci sarò io, in veste di verbalizzatrice, in compagnia di tutte persone connesse, alle quali chiedo cortesemente di farmi sapere se tutto funziona, cioè Cosimo Lisi, Francesco De Mitri, Stefano Righetti. Terzo tavolo, critica delle sensibilità, che vede come coordinatore Igor Pelgrefi, Ivan Bedeschi e Pier Giorgio Caserini, che speriamo riesca a raggiungerci perché, ripeto, ha avuto problemi familiari. Ripeto, i tavoli sono aperti, chiedo a tutti davvero di procedere con un po' di ordine per quanto riguarda la prenotazione degli interventi. Grazie. Buon pomeriggio, diamo inizio insomma a questo primo tavolo dedicato appunto alla critica del quotidiano. Io appunto sono Gianluca De Fazio, abbiamo già avuto modo di presentarci prima. E direi che facciamo un giro di intervento intanto con i nostri relatori Ubaldo Fadini e Marco Tronconi, poi entro, visto avendo il ruolo di coordinatore e moderatore, magari io intervengo per ultimo. E poi magari appunto l'idea è quella di un dialogo più che una serie di conferenze o di relazioni, per cui insomma ovviamente l'invito è a prendere parola sia da chi segue dal web sia insomma chi è qui in presenza. Inizierei con Ubaldo, se sei d'accordo. So se questo funziona. In questo momento non funziona. Sì, poi mi dite voi se, soprattutto se c'è qualcuno connesso, se ascolta. Allora, il tema del quotidiano, oggi si parla tanto di nuova antropologia, si parla di tutto ciò che concorre, causa, provoca delle trasformazioni significative del nostro modo di sentire, insomma, e quindi anche del nostro modo di pensare. Ecco, volendo trovare un piano di ricaduta di queste trasformazioni che riguardano il nostro sentire, il nostro pensare, il nostro agire, il nostro lavorare 24 ore su 24, anche quando non ne siamo consapevoli, eccetera, eccetera, volendo trovare un piano di ricaduta e anche quindi di verifica poi della valenza, insomma, del valore, ecco, di questi processi di trasformazione, insomma, di trasfigurazione della nostra sensibilità e della nostra intelligenza, abbiamo pensato e ancora riteniamo che sia utile andare al motivo del quotidiano, andare a cercare nella vita quotidiana, nella nostra vita di tutti i giorni, no? Che cosa ha residuato, ma in fondo è qualche cosa di più del residuare questo complesso di trasformazioni, no? Che si dice che sia così importante oggi e che investe, lo ripeto ancora, il nostro modo di sentire, il nostro modo di pensare. Ecco, quindi in quest'ottica, in questa prospettiva, diamo un'occhiata al quotidiano. Adesso è vero che ormai da qualche decennio c'è tanta letteratura sociologica che si è spesa in tale direzione, cercando appunto di cogliere, di lavorare, di indagare, insomma, sulle variazioni del nostro vivere di tutti i giorni, del nostro vivere quotidiano. Mi è venuto in mente, quando mi è capitato di riflettere e di parlare di questo tema, mi è venuto sempre in mente il lavoro di Richard Sennett, no? Sennett è tra coloro che più sono stati attenti negli ultimi decenni a trasformazioni importanti del nostro modo di lavorare, che evidentemente hanno poi anche stravolto il quotidiano e il vivere quotidiano. In quest'ottica, in questa prospettiva, vale ancora la pena, con tutti i limiti poi della ricerca, ma insomma vale per tutti questo, della ricerca di Sennett, vale ancora la pena prendere in esame, tra l'altro, il libretto di Sennett, ve lo ricordate tutti, quello dedicato al soggetto flessibile, no? All'uomo flessibile, della fine degli anni 90, se non ricordo male, un libretto veramente, veramente importante, perché faceva i conti con quella, allora si diceva, flessibilizzazione delle attività di lavoro in determinate aree, zone, insomma, no? Del nostro pianeta, ovviamente quelle, allora si diceva, più economicamente avanzate e sviluppate. Sennett faceva i conti con quello che stava accadendo in tali aree, che vedevano una flessibilizzazione del lavoro, si potrebbe dire anche, tra virgolette, una precarizzazione, cioè soggetti destinati nel corso della loro vita a cambiare spesso, non dico volentieri, ma spesso sì, no, la loro attività di lavoro. La loro attività di lavoro, il che significava cambiare luoghi di vita, modi di vivere, stili, insomma, di azione, di vita, di relazione. E Sennett sosteneva che questo risultava ovviamente particolarmente importante, e che non si trattava di una fase destinata poi a esaurirsi, a risolversi, la vedeva questa fase invece come qualche cosa di duraturo, che indicava un orizzonte di collocazione nostra, dell'umano, tra virgolette, destinato questo orizzonte a permanere veramente nel tempo, come nostro orizzonte. Poi si potrebbe citare tanta altra letteratura, adesso non voglio farla lunga, perché, ma soltanto per darvi delle indicazioni, poi insomma ne ho spesso parlato di questo tema, non vorrei essere troppo ripetitivo. Qualche anno fa, una decina d'anni fa, c'è stato un altro sociologo che ha scritto un libretto interessante, curioso, sostenendo addirittura che il nostro, tra virgolette, nostro capitalismo è un capitalismo che mette a valore addirittura il nostro dormire. Noi non facciamo altro che lavorare, no? H24, anche quando pensiamo di essere fuori dall'impegno, dal coinvolgimento in attività di lavoro, in realtà facciamo qualche cosa che è riferibile e sarà speso in tale direzione, in tale ottica, cioè nel senso di favorire ancora di più, al meglio, no, l'articolazione e la realizzazione di determinate prestazioni di lavoro. Questo è un po' il contorno, che potrebbe anche essere ulteriormente dettagliato, non voglio farla lunga, sappiamo tutti insomma che la flessibilizzazione o la precarizzazione dell'attività di lavoro, diciamo, ha avuto un forte impatto e ha un grandissimo impatto sulla nostra esperienza di tutti i giorni, sul nostro modo di vivere appunto quotidiano. Su questo non voglio farla troppo lunga, vi ho ricordato Sennett, vi ho ricordato Crary, quest'altro sociologo, ma insomma si potrebbero ricordare tantissimi altri studiosi. Quello che a me ha stimolato questa registrazione, questa rilevazione di tale novità, naturalmente restituita sotto veste teorica, quindi sotto veste in questo caso sociologica, quello che a me ha stimolato è la voglia, il desiderio di riprendere in mano un po' di testi, di tradizioni, di pensiero filosofico, sociale e sociologico, testi cari a me come ragazzino, ma che nell'ottica che vi ho richiamato in un qualche modo mi sembravano ancora utili, insomma, no? ancora validi, ancora apprezzabili per il loro contenuto. E in effetti nel Novecento, fermatemi quando volete, nel Novecento perlomeno un paio di studiosi, di indirizzi di ricerca, di linee, insomma, di pensiero, diciamo, critico, possono essere ricordate. C'è una sociologia della vita quotidiana che ha avuto espressioni vivaci, esponenti di grande peso, di grande rilievo. Penso, non so, alla sociologia della vita quotidiana di Henri Lefebvre, no? E quindi a un autore, uno studioso impegnato complessivamente sul piano della rilevazione del valore e del significato delle trasformazioni della città, dell'urbano, e che appunto in questo senso poi, no, aveva prestato particolare attenzione anche al valore e alle trasformazioni di valore del vivere quotidiano, no? Nell'ottica propria della rilevazione delle trasformazioni, dei cambiamenti, insomma, che interessavano ampiamente il tessuto urbano, no? Il tessuto della città, in modo particolare, ma sì, il tessuto della grande città. E poi, quindi siamo negli anni 40-50 del secolo scorso, più o meno, insomma, per quanto riguarda Lefebvre, questa attenzione particolare alla vita quotidiana, no? A cosa stava cambiando nel quotidiano in quel periodo, in quella fase particolare di sviluppo o comunque di affermazione di sé da parte del modo di produzione capitalista, affermazione di sé veramente, veramente stringente, no? Veramente importante. L'altra tradizione di pensiero critico a cui forse vale la pena ricorrere quando cerchiamo di capire che cosa ci sta succedendo, come sta cambiando il nostro quotidiano, è quella degli allievi di Lukács. Quindi la Heller, ma non soltanto la Heller, anche l'altro autore di cui in questo momento non ricordo il nome, ma insomma la scuola di Budapest, no? La scuola lukacciana con i giovani allievi di Lukács, cioè che partono da mettendo a tema le ultime lezioni del maestro, l'attenzione al piano propriamente etico del vivere in società sempre più complesse, quella capitalista ma anche allora quella, diciamo, del come si potrebbe dire oggi, del capitalismo di Stato, insomma di una pianificazione che voleva essere socialista. Ecco, riprendendo la lezione dell'ultimo Lukács, del Lukács dell'ontologia sociale, no? Dell'essere sociale e poi della piega in senso etico, insomma di una indagine sulle complicazioni del tessuto sociale, del vivere sociale e del tempo, ecco, riprendendo appunto la lezione dell'ultimo Lukács, la Heller e altri si interrogano anche loro sulle trasformazioni del quotidiano e sull'importanza di comprenderle, di afferrarle anche per articolare una critica, no, alle logiche di funzionamento della società del tempo che non risultasse scontata, ripetitiva, non all'altezza di ciò che stava accadendo, perché anche nelle società, diciamo, del socialismo di Stato, nelle società orientali, evidentemente qualche cosa stava capitando, no? Dei processi di trasformazione comunque si stavano articolando e si stavano concretizzando. Insomma, per arrivare a un punto di ragionamento che secondo me può essere ancora di un qualche interesse, Lefebvre, la scuola di Budapest, quindi le linee di ricerca critica sulle trasformazioni del quotidiano, hanno un elemento in comune che è dato dalla registrazione del fatto che l'ambito, l'ambiente, diciamo così, del quotidiano sotto veste domestica è un ambiente che piano piano conosce una sorta di pressing, viene sempre di più impattato, investito, insomma, da processi di trasformazione del nostro, tra virgolette, nostro capitalismo, che mettono a dura prova la distinzione classica riferibile proprio a una certa idea del quotidiano sotto veste domestica, la distinzione classica tra tempo di lavoro vero e proprio, quindi fuori dall'ambito, dall'ambiente domestico, dal quotidiano sotto tale veste, e invece il tempo di non lavoro, quello, insomma, di non lavoro o che comunque non è identificato con il lavoro produttivo che viene svolto fuori di casa, è fuori dall'ambito quotidiano propriamente, del quotidiano domestico propriamente detto, no? Questa è una linea di ricerca, chiaramente l'analisi del pressing, no? Dell'impatto comunque, dell'investimento che si dà su che cosa, appunto sul quotidiano domestico da parte, no, di certe trasformazioni del nostro modo di lavorare, del nostro modo di produrre, l'analisi di questa sorta di pressing, di questa sorta, come si può dire, di tallonaggio, no? È un'analisi che è in grado di far vedere, di cogliere la fragilità sempre più accentuata di quei limiti, di quei confini, di quegli steccati che tradizionalmente, fortunatamente, no, per molti, dividevano che cosa? Lo spazio lavorativo extradomestico, che era buona parte del quotidiano, e lo spazio invece non lavorativo domestico, anch'esso parte importante del quotidiano e anzi parte così importante da garantire poi dinamiche di riproduzione della propria fantasia, della propria immaginazione, del proprio respirare diversamente, no? Anche sul piano relazionale, sul piano dei rapporti, anche se poi sappiamo benissimo che queste due parti del quotidiano appunto sono sempre comunque da vedersi nel loro essere intrecciate. Però Lefebvre e gli autori degli anni 70, no, della scuola di Budapest che lavoravano su tale terreno, prendono atto insomma che il rapporto sta diventando sempre più complesso e determinati limiti, determinati confini, o se volete tra virgolette steccati, rischiano veramente di venire complessivamente meno. Ecco, questa è l'idea tradizionale, no? Tutto sommato quella scontata, quella che abbiamo in testa, il modo di vedere il quotidiano come qualche cosa che viene a essere specificato attraverso la distinzione tra tempo di lavoro fuori casa, almeno per molti, poi non era sempre così, ma insomma, tempo di lavoro fuori casa, no? E tempo invece di non lavoro, tempo, una volta si sarebbe detto anche un po' scioccamente, tempo libero, no? Dentro l'ambito domestico. Ecco, tutto questo non voglio dire che sia venuto meno, potrei anche dirlo, esagerando, insomma, forse, ma non è più da vedersi nei termini che vi ho indicato oggi, no? Perché anche l'esperienza che abbiamo vissuto della pandemia, no? Del lockdown, è un'esperienza che ci ha fatto, questo lo diceva comunque Sennett alla fine degli anni 90 e tanti altri con Sennett, magari anche in maniera più radicale, insomma più convincente. Io prendo Sennett perché è un sociologo che più o meno abbiamo letto tutti, lo conosciamo, poi non fornisce, non ci dà delle complicazioni particolari. Ecco, attraverso l'esperienza che abbiamo vissuto abbiamo capito meglio qualche cosa che era già abbastanza evidente, che aveva anni e anni alle spalle di storia, come vicenda appunto importante. Abbiamo capito meglio che nel nostro quotidiano la distinzione, come una volta era pensata, tra tempo di lavoro, no, e tempo di non lavoro, mettiamola in questi termini, tempo riferito, no, allo spazio propriamente domestico, esagero, schematizzo, questa distinzione non c'è più. Non c'è più. O comunque, se c'è la possibilità ancora di individuare una differenza, ecco che questa possibilità è da riferirsi a una complicazione sfrenata senza limiti del vivere quotidiano, che vede al suo interno un intrecciarsi appunto di esigenze che sono direttamente riferibili allo svolgimento di certe attività produttive, no? Intrecciarsi di queste esigenze con delle richieste di affinamento, ma anche poi altro, della nostra sensibilità e della nostra intelligenza, esigenze che trovano poi una loro soddisfazione all'interno del quotidiano, no? Esigenze che però hanno valore, hanno significato nel momento proprio in cui si intrecciano, si combinano con quello che si vuole che accada, che succeda per lo svolgimento migliore di certe attività di lavoro, no? Di certe prestazioni di lavoro. E questo è un punto significativo, perché se questa idea, insomma, mi sembra, adesso viene presentata qui in termini forse anche troppo radicali, troppo estremi, se questa differenza, la differenza diciamo rilevabile storicamente e tradizionalmente elaborata, è venuta meno, la differenza che vi ho indicato è venuta meno, comunque sempre più tenue, sempre più debole, sempre meno tale, sempre meno differenza. Se questa differenza è venuta meno, allora l'ambito del quotidiano appare una sorta di mescolanza, di miscelatore, insomma, di attività, di interessi, di sogni, di aspirazioni, di azioni, di ideazioni, insomma, di attività di diverso segno, di diverso tipo, che ha dei tempi come di messa in moto, ha appunto dei tempi suoi di elaborazione e di sviluppo assolutamente rapidissimi, insomma, no? Velocissimi. La cosa fantastica, tutto sommato, dico fantastica sì, tra virgolette, per chiudere, la cosa fantastica è che ci siamo trovati a vivere, chi lo ha potuto fare, ma insomma, comunque quello che vi sto dicendo è emblematico è sintomatico, meglio, di un processo che stava ormai prendendo piede un po' dappertutto. Noi ci siamo ritrovati a vivere una condizione, no, che ci restituiva apparentemente come signori e padroni, no, a casa nostra, signori e padroni a casa nostra, quando in effetti poi, no, di questo nostro essere signori e padroni a casa nostra non c'era più la possibilità di individuarne una vera e propria causa, perché tutto ciò che facevamo a casa nostra, nel nostro ambiente, piccolo ambiente domestico, era letteralmente dettato da tempi, no, di cui noi non eravamo assolutamente capaci di una minima gestione, insomma, no? Di un minimo governo. Cioè, l'ambiente domestico, il quotidiano sotto veste domestica è stato, diciamo, era legato con una funzione riproduttiva ancora prima, ma insomma è stato letteralmente mangiato, divorato, inghiottito, no? Da una necessità di articolazione, di funzionamento del sistema produttivo. E questo è da leggersi anche come qualche cosa, una dinamica che ha impattato quei piani di... come posso dirvi, quei piani sui quali la nostra sensibilità, la nostra intelligenza pensava fino ad allora di avere assicurato un po' più di respiro o di relativo smarcamento, no, da ciò che altrove e altrimenti era imposto sul piano proprio dell'articolazione delle dinamiche produttive. Insomma, l'ho detto male, ma più o meno il ragionamento era questo, cioè prendere atto delle trasformazioni del nostro quotidiano che sono indicative di dinamiche che stanno letteralmente impattando sulle nostre teste e sulla nostra sensibilità, cambiandone gli assetti e le configurazioni, che non è poca cosa. Grazie, grazie Ubaldo. Insomma, un intervento denso e pieno di stimoli, insomma, appunto, hai messo bene in evidenza il perché, la necessità del pensare il quotidiano. Io andrei e girerei direttamente la parola, insomma, il microfono a Marco, così continuiamo con questo tavolo poi. Allora, sarò brevissimo, anche perché insomma mi interesserebbe lasciare spazio anche ad altri che sono qui presenti e magari sono anche online, anche a te Gianlu, se poi vuoi effettivamente dire qualcosa oltre a moderare. Dicevo che sarò breve, nel senso che mi interessa lasciare spazio sia ai presenti che a quelli online e anche a Gianlu che sta moderando in questo momento, ma che probabilmente ha qualcosa da dire. Tuttavia mi preme dire alcune cose. Mi connetto direttamente alle cose che ha detto Baldo, però prima faccio un esergo, perché Ubaldo ci ha offerto questa lettura del quotidiano a partire da una prospettiva di sociologia radicale, che è già un certo modo di intendere il problema del quotidiano. Tiro fuori una formuletta di Haraway come esergo, veramente come esergo, che mi sembra utile che ci accompagni durante le nostre riflessioni, che è: con quali idee pensiamo le idee? E la lascio lì, lascio assolutamente lì. Quello che dice Ubaldo mi sembra che si possa anche raccontare in quest'altro modo. Mi sembra che dia una descrizione assoluta che in termini filosofici possa essere ripresa e ridetta in questo modo. Questa questione del quotidiano è diventata l'ombra del piano di immanenza. Perché dico l'ombra del piano di immanenza? Perché se siamo, se ci ricordiamo un po' le riflessioni di Deleuze e Guattari sulla questione del piano di immanenza, il piano di immanenza non è un dato. E quindi qui ci troviamo ad avere a che fare con un quotidiano, con un continuum, che invece è dato, è nelle cose. E quindi è l'ombra del piano di immanenza. Ma per riuscire a creare un piano di immanenza che sia un piano di consistenza, loro dicevano, occorre crearlo. Occorre crearlo. Da questo punto di vista riprendo brevissimamente quello che mi sembra un altro modo esattamente per dire la stessa cosa, che è quello che dicevo anche stamattina molto brevemente, insomma. Quando si parla di questo quotidiano coestensivo alla nostra vita, semplicemente ci si accorge del fatto che si è interni ad un sistema. Poi, che sia veramente un sistema è tutto da dimostrare. Che però si sia interni a delle forze dominanti o a delle assiomatiche dominanti, questo mi sembra particolarmente rilevante. E quando dico che si è interni, a questo cosa voglio dire? Voglio dire esattamente quello che poi anche è stato detto, che questo essere interni configura le nostre sensibilità, caratterizza le nostre sensibilità, il nostro modo di ragionare, di desiderare, di fantasticare e di comportarci è determinato dal fatto che siamo interni a tutto questo. Ma se siamo interni a tutto questo, il problema è: com'è possibile fare una critica? Perché fare una critica significa esattamente riuscire a prendere distanza da tutto questo, o quantomeno non essere completamente soggiogati da tutto quello che ci fa essere quello che siamo, se essere quello che siamo risulta a questo punto estremamente problematico. Problematico proprio per quanto riguarda la nostra capacità di, mi verrebbe da dire, di potenza, cioè la nostra capacità di soddisfazione, si potrebbe anche dire. E quindi spero di non essere stato confuso, ma mi sembra di poter ripetere esattamente quello che è stato detto attraverso un altro gergo, diciamo così, che ha più a che fare con un gergo filosofico e non direttamente sociologico, ma è molto interessante vedere questo gemellaggio, il fatto che ci sia un gemellaggio da questo punto di vista, che fa sì anche che oggigiorno ha ancora senso continuare a noi, per noi parlo, perché per la macchina, come si diceva stamattina, ha assolutamente senso continuare a parcellizzare, ma per noi ha ancora senso continuare a parcellizzare, ovvero ad assumere come distinte queste dimensioni, quando mi sembra appunto che parlino del medesimo, non facciano che parlare tecnicamente in modo diverso, ma del medesimo problema. A questo punto due spunti, semplicemente due spunti, che hanno a che fare con una possibilità di costruire un piano di immanenza che superi l'ombra del piano di immanenza, ovvero sia costruire la questione, uno stile, mettiamola così, essere in grado di acquisire uno stile che non sia uno stile ereditato. Ereditato dalla macchina entro il quale siamo, il contesto entro il quale siamo, l'assiomatica che ci domina. Due spunti, semplicemente due spunti. Il primo mi viene da Rancière, che mi sembra da questo punto di vista estremamente emblematico. Estremamente emblematico nella misura in cui il suo modo di intendere la questione politica, etico-politica, è esattamente quella di una messa fuori uso. Una messa fuori uso che non va da sé, naturalmente. Cioè che è una critica, ma che è una critica in quanto critica immediatamente affermativa. Perché? Perché costituisce la possibilità di un altro uso di un dato, e allora non è più lo stesso dato. Ma esempi innumerevoli si trovano se si indossano queste lenti. Ne tiro fuori uno, ma giusto perché ce l'ho fresco e dà a che fare con una storia di movimenti di qualche tempo fa. La questione di Occupy. questione di Occupy per Rancière non è, se, voglio dire, no, non è prodromo ad una rivoluzione, non si tratta di questo, non si tratta di questo, si tratta di ridefinire la possibilità di quella piazza che ha un certo uso, ha una certa percorribilità, è iscritta in certi funzionamenti. Il fatto di occuparla, e lui indaga molto sulla parola occupare, che significa occupare, come ci si occupa, si arriva fino a pensare come ci si occupa, che vuol dire come ci si forma, che cosa ci interessa, cioè che cosa è dentro di noi e fa sì che noi ci si muove in una certa direzione, è estremamente emblematico di questa possibilità di scarto, di questa possibilità di scarto, dalla possibilità di scarto alle implicazioni e alle durate che questo scarto è in grado di produrre. C'è un mondo nel mezzo, ma in questo momento di soffocamento mi sembra che qui si respiri, ci sia l'idea della possibilità di respirare. Ne dico un'altra che ha sempre a che fare con questo, perché dicevo occupare una piazza, cioè occuparsi in un altro modo. Tiro fuori la questione dei dintorni, che tra l'altro è una cosa che anche Gianluca nel suo libro, del quale non ricordo il titolo, però ha scritto, la questione dei dintorni. La questione dei dintorni, proprio per le sue ricadute etiche, che a me interessano le sue ricadute etico-politiche, mi sembra particolarmente rilevante. Di che cosa siamo fatti, ancora una volta? Perché a me non interessa francamente una prospettiva interiorista. E quindi quando mi domando di che cosa siamo fatti, immagino immediatamente a che cosa di fuori ci fa, a che cosa di fuori ci configura. Mi viene al limite dire che l'esistenzialismo è una configurazione del fuori in una piega particolare. Quindi che cosa ci fa? Quali dintorni abitiamo? E naturalmente i dintorni non sono mica i dintorni cartesiani, eh? Non sono i dintorni oggettivi, ad una certa distanza, ad una certa o successivi, con una certa temporalità, descrivibili con delle assi. Cioè siamo in un momento in cui quel che è di fuori da un punto di vista virtuale, è di fuori da un punto di vista mediatico, è di fuori da un punto di vista, insomma, siamo informati continuamente dal di fuori. E il nostro corpo stesso però abita dei paraggi. Questo per dire che un modo, non lo so se è fruttuoso, ma è quel che riesco a pensare al momento, per riuscire, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, ho scoperto ultimamente, perché sono ignorante, che anche Latour ha lavorato su queste cose, un modo per riuscire a comprendere a comprendere chi siamo, mettiamola così, a comprendere chi siamo è un modo, deriva dalla possibilità di capire di che cosa siamo dipendenti. E una volta reso manifesto, rese manifeste le nostre dipendenze, abbiamo anche la possibilità di sceglierle. Ritorno al discorso fatto da Elvira questa mattina, che mi ha colpito molto, perché è una questione di compromessi, naturalmente. Non si tratta assolutamente di essere fuori da un certo contesto. Si tratta però di riuscire a scegliere dove essere dentro e dove essere fuori. E quindi è una questione di selezione, è una questione la questione etico-politica diventa una questione di selezione. Per quanto è praticabile questa selezione, ma è il nostro mi pare che sia, da questo ragionamento discenda, che sia una prospettiva alla quale farci attenti, perché nella misura in cui si scopre le dipendenze, ma non le dipendenze generali, non le dipendenze dal capitale, non le dipendenze dal capitale, da come il capitale funziona su quel corpo, cioè su di me, su di te e su chi vuole porsi questa domanda, allora le possibilità di fuoriuscita sono molto più grandi, sono molto molto più grandi. Naturalmente non assolute, non si tratta di assolute, non si tratta di assolutezza, e tuttavia di percorribilità di queste fuoriuscite. Basta, non ho nient'altro da dire. E ridò il microfono a Gianluca. Sì, scusa, qua mi hanno dato l'attività burocratica di... Ok, grazie, perché insomma mi sembra che anche con cioè, si sia fatto un bello zoom comunque sulle questioni, già sulle questioni generali sollevate da Ubaldo, e mi sembra che tu sia andato insomma a fare uno zoom molto interessante, soprattutto su Rancière che secondo me è molto stimolante. E dunque chiudo io questa sessione diciamo dei relatori, magari appunto facendo anche un altro piccolo focus. Mi ero preparato ovviamente un sacco di roba, ma andrò molto molto sul breve. E alla selezione, appunto, come atto politico. E no, visto che è stata citata, allora mi concentro su questo aspetto, cioè Heller, Agnes, adesso non so come si pronunci Heller, e in particolare la questione dei bisogni. Perché secondo me, quando si parla di problema della vita quotidiana, entra in gioco questo aspetto dei bisogni. Questo aspetto dei bisogni perché, da un lato, secondo me richiama il rapporto, diciamo, vita-valore messo evidenziato da Ubaldo, è la questione, diciamo, dei dintorni, degli ambienti, di questa relazione con l'esterno, no? Che ci costituisce, e credo che il concetto di bisogno si iscriva all'interno di questa, di bisogno. Adesso dirò due cose sul concetto di bisogno, ovviamente, si iscrive in quest'ordine di discorso, che io appunto definirei ecologico, nella misura in cui l'ecologia non è appunto un ambientalismo, ma lo studio e l'analisi, lo studio, si spera critico, dei rapporti tra l'animale umano e i suoi dintorni, appunto, il suo habitat. E io trovo molto interessante, secondo me, spendibile nella chiave di riesame critico, o se vogliamo ripresa critica del problema del quotidiano, a partire dal concetto di bisogni radicali, che questo è il concetto, no? Di cui sostanzialmente prendo da Agnes Heller, no? Concetto dei bisogni radicali, che lei muta direttamente da Marx, e che però bisogna fare una piccola distinzione, no? Perché ovviamente la prima obiezione che si potrebbe porre a questa mia presa di posizione rispetto alla teoria dei bisogni è che uno potrebbe dirmi, giustamente, non siamo oggi appunto in un mondo in cui, no, c'è stato anche un libro che ha questo titolo, in cui siamo pieni di bisogni artificiali, no? Di cui sostanzialmente non abbiamo bisogno di cose di cui non abbiamo bisogno, usando questo piccolo gioco di parole. E proprio se è vero che esistono questi bisogni artificiali prodotti dal capitale, è proprio lì che non bisogna, sul quale non bisogna cadere in qualche modo. Perché se noi pensiamo che si possa opporre ai bisogni artificiali della società delle merci, della società dei consumi, un supposto bisogno naturale dell'animale umano, e allora restiamo all'interno di quel processo, di quella dinamica, di quel modus cogitandi, di quel modo di pensare al vivente, che di fatto non fuoriesce da quella logica che sta comunque all'interno dei processi di produzione capitalistici, che Marx avrebbe chiamato feticismo e che noi possiamo chiamare come processi di naturalizzazione, perché ovviamente i bisogni naturali, bisogna poi capire quali sono i bisogni naturali, ed è proprio su questa distinzione tra bisogni artificiali e bisogni naturali che secondo me il ragionamento della Heller è estremamente, estremamente interessante. Perché lei mette in evidenza un aspetto, e cioè il fatto che il sistema delle merci, il sistema della società delle merci, oggi potremmo dire della società di mercato, ma insomma un po' il concetto cambia di poco, produce dei soggetti poveri di bisogno. È questo concetto di povertà di bisogni che secondo me è estremamente interessante, perché i bisogni artificiali in realtà, se in apparenza fanno proliferare in maniera esponenziale, no, i bisogni che vanno dalle cose più stupide, cioè dall'acquisto di prodotti del tutto inutili, no? Quando noi entriamo nei supermercati usciamo sempre con almeno uno o due prodotti che non avevamo previsto di acquistare, e contro l'apparenza di questa proliferazione di bisogni, in realtà Agnès Seller dice: guardate, facciamo attenzione, perché di fatto quello che sembra un aumento esponenziale delle necessità dell'animale umano, di fatto in realtà è semplicemente un aumento esponenziale delle necessità del mercato, che diminuisce invece le necessità dell'animale umano. Quindi in realtà la società di mercato, una società poi anche quella della competizione neoliberale ancora di più di quella degli anni 70, insomma ancora con 60-70, ancora con un liberalismo classico, aumenta appunto queste necessità del mercato rispetto ai bisogni radicali dell'animale umano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che rimane il capitale, cattura, insomma, sovrainterpreto un attimo la lettura della Heller, mettendo le concetti che non sono, i termini che non sono suoi, ma che insomma sono miei, cattura questi flussi di desiderio, questi bisogni, appunto queste macchine di bisogno delle soggettività, per impoverirle e ridurle soltanto alle necessità di mercato. In termini filosofese io la direi così: il capitale sussume le finalità senza scopo dell'animale umano alla teleologia della produzione capitalistica, che sostanzialmente è un altro modo per dire produci, consuma, crepa. Quindi sostanzialmente questa proliferazione di bisogni artificiali, lungi dall'essere l'alienazione di originari bisogni dell'animale umano, sono in realtà la limitazione, l'impoverimento dei bisogni animali, dei bisogni radicali della soggettività. E questo produce da un lato una desocializzazione del bisogno, perché appunto il bisogno cattura l'individuo e non la società, no? Nei sistemi liberali del libero scambio io acquisto ciò che a me manca, no? Quindi individualizza il bisogno e trasforma il bisogno nella mancanza individuale, no? C'è questo processo. Il bisogno, che invece è qualcosa, dice Heller, che spinge l'animale umano alla socialità, alla convivialità, all'incontro con i propri dintorni, invece diventa qualcosa che manca, un venir meno un individuo, diciamo così, costantemente inadeguato rispetto alle proprie necessità. Il bisogno diventa quindi mancanza, in quanto la mancanza dell'oggetto produce, stimola il consumo e quindi incentiva la produzione, ma soprattutto in questa desocializzazione del bisogno c'è anche una immanchevole, insomma anche un po' di conseguenza, maggiore governabilità dell'individuo, una maggiore governabilità, in quanto l'individuo è sempre troppo impegnato a colmare questa lacuna che di fatto non può per principio in qualche modo colmare. Questo produce quindi l'altro aspetto, produce una generale proletarizzazione della soggettività, dove appunto cambia anche proprio il concetto, no, però ristruttura semanticamente il concetto di proletariato, dove la soggettività proletarizzata è appunto espressione di questa povertà di bisogno, di questo continuo venir meno del bisogno animale rispetto invece alle necessità di mercato. Voglio dire, un essere vivente che deve essere che è costantemente impegnato a cercare di riprodurre, a poter soddisfare soltanto quei bisogni che gli permettono di produrre la propria esistenza biologica, non può pensare a nient'altro se non a quello della mera sopravvivenza. Al contrario, invece, l'idea di bisogno radicale di Heller è l'idea quella di una ovviamente, insomma, erano altri anni e altri posizionamenti politici, però era l'idea quella di costituire di trasformare le relazioni sociali tali che, piuttosto che diminuire, invece incrementassero le possibilità e i bisogni dell'animale umano. Quindi, sostanzialmente, un po' per andare verso la chiusura, era molto più articolata. Spero, insomma, di aver lasciato un po' almeno l'idea di quello che intendevo dire. Sostanzialmente, questo concetto di ripresa, di riappropriazione dei bisogni radicali, di ritornare a ragionare sulla questione dei bisogni radicali, in qualche modo, a mio avviso, permette di ristrutturare. Di ricalibrare in qualche modo, diceva Marco, no? La questione messa fuori uso di quelle dinamiche, di quelle meccaniche che sussumono il nostro bisogno in quanto esseri viventi, che vanno dai bisogni biologici ai bisogni sociali. Perché in questo senso ovviamente non c'è soltanto nei bisogni radicali la necessità di mangiare, dormire, bere e andare di corpo e riprodurci, ma anche tutti quegli aspetti sociali che possono essere appunto delle relazioni, adesso non vorrei essere frainteso, però insomma delle relazioni sociali creative, incentivanti, insomma degli ambienti che siano un po' meno asfittici della semplice produci consuma crepa, appunto, che non mi sembra proprio un ambiente particolarmente abitabili. E questa ripresa di un ragionamento sui bisogni forse in qualche modo può permettere di ci potrebbe aiutare a scardinare quell'immaginazione, quella fantasia di razionale, del tutto razionale, che invece negli ultimi 30-40 anni risponde ancora all'imperativo che non c'è alternativa possibile a questo sistema di produzione. Riprendere questa teoria dei sistemi dei bisogni radicali permette, spero, l'idea è che è quella di riuscire di uscire fuori da quella, diciamo, un po' disperazione nichilistica da un lato, per la quale appunto più i bisogni diminuiscono, più i margini di gioco dell'animale umano diminuiscono, sottomessa alle leggi di mercato, quello che un po' diceva Ubaldo, no? Di questo entrare del lavoro morto nel lavoro vivo in qualche modo, no? del tempo di lavoro nel cosiddetto tempo libero, che produce evidentemente tutto un negativismo nichilista e quasi un passivismo, e permette invece un po' di riprendere in senso positivo e affermativo oppure anche proprio dialettico, insomma, un discorso critico sul nostro quotidiano, intendendo appunto critico nel senso, qui vado veramente a chiudere, nel senso più, se vogliamo, kantiano del termine, cioè delle rapporti, delle articolazioni, dei margini di gioco all'interno di quel libero gioco delle facoltà che ci costituisce noi in quanto animali, in quanto esseri, in quanto animali polimorfi, no? Mi sembra che sia un'espressione di Masini, se non ricordo male, questa dell'animale polimorfo. E quindi, insomma, la capacità di immaginarsi, quantomeno di immaginarsi, degli altri mondi possibili rispetto a quelli che sono dati oggi. Ok, io chiuderei così, spero, insomma, di aver dato un po' il senso di quello che avevo nella testa, e lascerei la parola. Esatto, sì, lascerei la parola appunto a chi, se c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa, anche da casa. C'è Igor che si è prenotato, quindi non mi sembra ci siano altre persone. Vieni qui. E riguardo a te. No, molto bello, inizio a essere fecondato da pensieri e suoni, e ho seguito quasi tutto. Ma una cosa rapidissima, su Rancière tu ne hai parlato, no? Chiaramente hai fatto una sintesi, quindi se volevi tornare su questo concetto, mettere fuori uso, la messa fuori uso, no? E oltre a quello di occupare, occuparsi, quindi questa auto... come dire, auto etero operazione di mettersi da parte, di occuparsi, disoccuparsi, volendo, ecco, disoccuparsi e mettersi fuori uso. In relazione anche a quello che dicevo stamattina di non funzionare, insomma, ci sono delle analogie, però ecco, lì io citavo Adorno, tu citavi la... No, ecco, cosa intende esattamente con questa messa fuori uso? Perché la domanda potrebbe essere poi quella che tu stesso ti ponevi, cioè da che posizione partiamo, no? come collettivo per mettere fuori uso? Cioè, se è vero, se ho capito il tuo ragionamento, posto che la critica richiede una forma di distanza, di provvisoria, eccetera, e quindi rischia di invalidare poi tutto il procedimento ogni volta, eccetera, eccetera, e questa messa fuori uso da dove parte, da dove, non so, è sempre in atto, insomma, non so, qualcosa di più su questo aspetto un po' teoretico, che però poi diventa anche politico, perché se devo fare qualcosa, no, oggi... Da dove parto, da dove, per questa messa fuori uso? Non so se è chiara la domanda. Ah, ok. Vabbè, poi c'è anche altre cose. Allora, intanto, se ci fosse qualcun altro che ha voglia di provare a rispondere, io non sono di certo il portavoce di Rancière, e quindi... credo che sia una domanda aperta per tutti quelli che abbiano voglia di riflettere su questa questione. Per me, per come ho avuto modo di leggere Rancière, la questione Igor non è più una questione teoretica. Questo è il punto cruciale. Il fatto che non sia più una questione teoretica, che cosa significa? Si potrebbe dire in mille modi, ma non voglio perdere tempo su questo fatto. Il primo è che, però qualcosa dico perché insomma è necessario, non penso che la filosofia sia una pratica teoretica, cioè, che abbia un tecnicismo teoretico e un tecnicismo proprio disciplinare, assolutamente sì, ma che si risolva in questo, mi sembra che questo non sia proprio una messa fuori uso della filosofia. E di conseguenza tutto il problema pratico-teorico mi sembra un problema, appunto, come diceva Ubaldo, ci possono essere degli intrecci interessanti tra queste dicotomie. A me piace pensare fuori da queste dicotomie, provare a pensare fuori da queste dicotomie. E questo significa che si devono usare delle tautologie. Fare filosofia è un fare qualche cosa. E quindi, per tornare alla domanda dell'uso e del fuori uso, è molto semplice. Ho parlato di un caso specifico, nel senso che si tratta di Occupy Wall Street. Che cos'è Wall Street? Come funziona Wall Street? Ecco che allora la critica è immediatamente pratica. In che senso? Perché se Wall Street funziona in quel modo, piantarci delle tende, fare delle assemblee in quel luogo, significa renderlo un fuoriluogo. Ripeto, non un fuoriluogo assoluto, non è questo il problema, è un fuoriluogo relativo all'uso che se ne stava facendo. E da qui sono arrivato qui, non ho fatto un passo oltre, nel senso che sono arrivato qui nel senso di dire che questa è un'apertura. Come si possa dare corpo, far durare un'apertura è tutt'altro problema, questo è tutt'altro problema, nel senso che credo che non ci sia una risposta. Credo che non ci sia una risposta preventiva a come far durare un'implicazione, perché è imprevedibile, è assolutamente dell'ordine dell'imprevedibile, e però è dell'ordine del fare, e ancora una volta del fare non da lontano. Non si tratta di dire come si dovrebbe fare, si tratta di, ancora una volta, per tornare al discorso che facevo, di badare ai propri dintorni. Come lo fai? Come tu lo fai? Forse è poco? Forse è poco, eh? Mi rendo conto che il passaggio dall'etica alla politica non va da sé, non è scontato. Al momento mi muovo in questa direzione, nel senso che la questione etica la riesco a mettere a fuoco. Come l'etica possa diventare politica, detto in altri termini, un po' più alti, come il vero bene possa diventare sommo bene, è un problema. Mi pare che sia uno dei nostri problemi. Cioè, intendo dire, sommo bene è il vero bene in comune. Sì, sì, Spinoza. Quindi non è una risposta, è un rilancio. Non so, io non ho contezza dell'online. Ok. Stefano, probabilmente Righetti, suppongo, non so se vuol prendere parola. Ah, e non so se vuole scrivere la domanda, magari poi la leggiamo, magari anche se è rivolta a qualcuno in particolare. Sì. No, nel frattempo ovviamente se qualcun altro vuole. Anche se Ubaldo vuole. Mi sembra un tema bello bello grosso. Non so se anche se Ubaldo vuole. Non so, io non, purtroppo non ho, so se però vuoi dire tu qualche cosa. Beh, intanto comunque se nel frattempo se vuoi. Passiamo la palla. No, magari poi ne riparliamo domani mattina, no? E abbiamo questa possibilità poi di portare avanti il ragionamento. No, si potrebbe mettere in piedi una piccola discussione tra di noi, nel senso che, va bene, a parte i tecnicismi, il discorso sull'ambiente, sui dintorni, insomma, che sappiamo essere di per sé complessi perché rinviano poi a autori, insomma, che bisognerebbe riprendere e spiegare anche nel senso del loro utilizzo, insomma, che qui facciamo. La rottura, lo scarto, il non fare funzionare le cose, non è che poi indicano delle situazioni o dei momenti, come posso dire, effettivamente critici per l'articolazione della macchina produttiva. Tutt'altro, insomma, no? Si potrebbe dire che il bisogno nostro, no? è quello di assolutamente non scartare, di essere sempre in linea, di funzionare effettivamente, di pensare la propria utilizzabilità nel modo migliore possibile, per via o a causa, insomma, dipende, di tutta una serie di processi, di dinamiche che in un qualche modo ci hanno restituito il pallino in mano. Cioè noi stiamo dentro a un mondo dove, adesso qui bisognerebbe citare un po' di amiche, di amici, insomma, che lavorano su questi temi, ma siamo all'interno di un mondo dove quelle trasformazioni della nostra sensibilità e della nostra testa, che sono segnate, disegnate, no, da esigenze che sono proprie del nostro modo di produrre. Queste trasformazioni hanno anche come loro ulteriore qualifica quella di restituirci anche la possibilità di un più di protagonismo da parte nostra. Quindi insomma, si potrebbe anche dire che l'elogio, l'apologia dello scartare, del non funzionare è comprensibile, è condivisibile, e che però rappresenta soltanto una parte del ragionamento complessivo, perché in fondo, adesso qui siamo tra amici, quindi lo dico anche in maniera un po' provocatoria, io voglio, pretendo della mia vita di fare di più che scartare, che operare in termini di smarcamento sempre e comunque rispetto, no, a ciò che accade e a ciò che si dà. Lo stesso vale per il funzionamento. Io voglio funzionare meglio nel momento in cui, no, del funzionamento io sono sempre più, per le esigenze, diciamo le logiche date oggi, di articolazione del nostro modo di produrre, no, del funzionamento, del mio funzionamento, io posso un pizzico di più avanzare la pretesa di essere padrone e signore, di avere un qualche protagonismo. Ecco, non ci basta più, insomma, dire va bene, che bello, quando son Rethel, lo cito sempre, no? Scriveva scherzando che l'essenza della tecnica viene fuori quando si rompe qualche cosa, no? Lo diceva proprio anche per sottolineare come un buon uso, un buon utilizzo della tecnica debba andare anche oltre, al di là della rilevazione dell'importanza della rottura, perché la tecnica funziona quando non si rompe. Bisogna cercare il modo di, no, non farla rompere, diciamo così, la tecnica, l'oggettino, il congegno tecnologico che risulta importante per noi. Però al di là della battuta di Son Rethel, ecco, per me è molto importante uscire fuori da questa che non è neanche una fantasticazione, insomma, direbbe Celati, è un modo riduttivo di considerare la nostra posizione oggi nel mondo. Se vogliamo rivendicare qualche cosa della nostra posizione del mondo, della nostra vita, della nostra esistenza, prendiamo atto che una possibilità in più. Poi non è detto che accada, sappiamo benissimo, siamo tutti più o meno messi male, però un pizzico in più di protagonismo finalmente lo possiamo pretendere, e lo possiamo forse anche in un qualche modo avanzare per trasformazioni della nostra sensibilità e della nostra intelligenza che stanno dentro, dietro, che sono anche effettuazioni dovute, imposte, no, al nostro modo di produrre. Ecco, questo aggiungerei alle cose estremamente condivisibili che ho ascoltato, no? di Marco, e anche al discorso di Gianluca sulla differenza tra bisogni veri, no? E bisogni falsi, si sarebbe detto, non veri, si sarebbe detto una volta. Però ci tengo molto a questo ragionamento, insomma, il non far funzionare ci restituisce, va bene, non voglio poi, come posso dire, assolutizzare il ragionamento. Il non far funzionare, diciamo, il sabotare qualche cosa, andava bene, soprattutto, non che non vada bene oggi, ma soprattutto andava bene in un momento concreto, materiale, storico, particolare, dove c'era ancora, tra il soggetto di lavoro e ciò a cui si relazionava, una frattura, una rottura, un abisso, una separazione, una distanza, diciamo, irrimediabile, poi soprattutto per la gestione e il governo di tale distanza, no? Che non favoriva sicuramente colui che si presentava come soggetto di lavoro. Oggi non è più, non siamo più soltanto così, c'è qualche cosa di diverso. No? Il soggetto di lavoro oggi, quel qualche cosa, no, a cui si relazionava per concretizzarsi come tale, ce l'ha nella sua testa, nella sua sensibilità, anche in parte. E allora capite, insomma, è più importante piuttosto che suicidarsi, proiettandosi all'indietro, no, a quell'immagine lì, è più importante invece verificare questo, rilevare questo aspetto e scommetterci sopra qualche cosina, no? Per forse ritornare a essere un pizzico più soggetti e più protagonisti. Ecco, questo mi sembra importante. Facciamo i conti, una volta si sarebbe detto, con le fasi dentro le quali siamo collocati. Andiamo a vederne la specificità per poi gestire al meglio patrimoni teorici, insomma risorse concettuali, no? Perché se no, altrimenti rischiamo di pensare che delle risorse concettuali oggi per noi siano estremamente importanti, quando lo erano sicuramente in un'altra fase e oggi invece ci aiutano poco a portare avanti esigenze, si sarebbe detto sempre una volta, di liberazione, di emancipazione, o comunque, per riprendere l'immagine di prima, di smarcamento, no? da ciò che ci cattura, ci comprende, ci consegna sempre alle solite dinamiche di trattamento della nostra sensibilità e della nostra intelligenza. Ecco, io la metterei, non so, in questi termini, e magari ci ragioniamo un po' tra l'altro, tra le altre cose, domani, no? Tiziana, che dici? Sì. C'è Stefano? Ah, perfetto. Ok, allora la parola a Stefano Righetti. Io guardo se riesco a accendere anche la telecamera senza che esploda. No, ci fai paura. Okay. Basta la voce. Basta la voce. Sì, no, se ci sono problemi di collegamento la chiudo. No. Vai tranquillo. Vai pure. Perché adesso vi sento, vi vedo malissimo. Non vi vedo più. Bene, vai. Ma noi ti sentiamo, vai pure. No, ma era anche per avere un film. Comunque, ok. No, vabbè, io adesso non ho sentito quello che avete detto questa mattina, quindi posso soltanto dire alcune cose su quello che ho ascoltato ora, ricollegandomi anche a quello che diceva Ubaldo. Sono d'accordo con quello che diceva Ubaldo, cioè la necessità è questa. Però volevo, visto che sono stato stimolato dai vostri interventi prima, così aggiungere solo questo. Stiamo attenti a ripensare un'idea della filosofia che si pone come problema in sé rispetto a un preteso mondo in quanto tale, esterno o interno che si voglia. Cioè nel momento in cui cominciamo a riragionare su una differenza tra individualità e molteplicità, qui in qualche modo si torna a una filosofia del soggetto che, quando anche avesse delle sue legittimazioni e delle sue legittimità, non ci porterebbe, secondo me, molto lontano. Abbiamo avuto, diciamo così, un pensiero che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha iniziato a pensare i problemi di cui parlavate anche voi, cioè il fatto che appunto la nuova condizione all'interno delle società occidentali rendeva di fatto il problema del pensiero, della centralità della filosofia, sempre meno un problema così significativo, dovuto appunto a quello che dicevate, cioè un sempre maggior benessere, una sempre quindi minore anche capacità di pensare la differenza, chiamiamola così. Dopodiché però c'è stato anche appunto qualcos'altro, c'è stato anche alla fine degli anni 60, c'è stato anche il 68, c'è stato anche un'altra articolazione della possibilità di incontro tra pensiero e società, tra pensiero e quelli che avete chiamato nuovi bisogni. E anche qui non cercherei troppo di definire il bisogno, riportandolo a bisogni così fondamentali o semplicemente accessori, no? La nostra società definisce continuamente il bisogno. Oggi come potremmo definire non necessario, per esempio, il bisogno di avere collegamenti decenti in internet, abbiamo visto durante la pandemia come la differenza sociale, forse anche una differenza tecnologica, no? Tra le persone. Quindi starei attento a non andare di nuovo a ridefinire un campo del pensiero come una sorta di campo autonomo, che poi deve in qualche modo interfacciarsi o andarsi a cercare la propria differenza con cui entrare in contatto, con cui ibridarsi in qualche modo, di cui condividere le azioni, però giudicandole, no? Giudicandole allo stesso tempo dall'esterno. Il pensiero che era sorto, che si è confrontato con la società occidentale uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, aveva in qualche modo definito che una delle condizioni della mancanza di pensiero è che non ci fosse conflitto, no? Che la società, in qualche modo, del benessere, che garantiva una sorta di tranquillità a livello esistenziale, poi rendesse difficile ridefinire punti di conflitto in grado di creare aggregazione sociale, di creare condivisione anche in qualche modo, no? Ecco, allora, secondo me, quello che oggi occorrerebbe è molto meno un pensiero che pensa il pensiero, che pensa di capire quali siano, quali possono essere le possibilità del pensiero, cioè di nuovo una filosofia in quanto filosofia. Non mi può più interessare questo discorso, lo dico proprio sinceramente. Ma secondo me, invece, di nuovo, come ci insegnava anche qualcuno dei nostri autori che abbiamo più frequentato, quello di un pensiero che condivide qualcosa, no? Che condivide una lotta, una crisi, un'articolazione dei bisogni all'interno di un conflitto. Allora, secondo me, oggi questo non manca come possibilità. Quello che vedo, invece, continuamente è la nascita di movimenti più o meno grandi, alcuni sono anche notevoli, per esempio quello dei ragazzi sul clima, nei quali però tutta una riflessione che il pensiero potrebbe portare, anche qui la distinzione tra sociologico e filosofico sinceramente non la perdo a questo punto, ma lì il pensiero, secondo me, non c'è così come potrebbe essere, cioè come possibilità di valorizzazione, di intensificazione ulteriore di quelle istanze. E lo vedo anche su altri piani, lo vedo, cioè quello che è successo, diciamo, con le ultime elezioni, mi ha molto colpito, per esempio, in termini positivi, ne parlavo anche con Ubaldo molto recentemente, la contestazione che è stata fatta in quella piazza dalle ragazze contro l'onorevole Boldrini, no? Lì si rivendicava appunto una differenza in qualche modo di classe, una incapacità della rappresentanza di essere realmente rappresentanza. Allora, secondo me i conflitti esistono già. Esiste già un terreno e uno spazio di condivisione, di confronto. E credo che sia appunto quella l'articolazione che occorrerebbe approfondire. Sono già definiti all'interno di quei conflitti i bisogni e allo stesso tempo, se vogliamo, anche lo spazio che il pensiero, in quanto riflessione teorica, può o dovrebbe, se ne avesse la forza, diciamo così, occupare, no? Non è un problema del pensiero porsi in quanto esteriorità il problema, in quanto interiorità il problema di confrontarsi con l'esteriorità. È l'incontro che genera questa possibilità, no? Che genera questa definizione. Non può Mi fermerei qua perché vedo che non so neanche se mi infatti sì, non mi sentite. Grazie, grazie Stefano, scusa, no, grazie per il tuo intervento, l'abbiamo sentito, direi tutto, forse le ultime due parole, grazie per, okay. Per essere a intervenuto. Voi. E direi che questo primo tavolo si chiude qui, quindi grazie ai relatori, mi autoringrazio e direi che possiamo passare al secondo tavolo e lascio la parola a Tiziana, direi. Faccio compagnia, vai. Rimango qui, se no devo spostare tutti lì. Grazie. Grazie, grazie a tutti per questo ricco primo tavolo. Mi chiedo se tutti coloro in questo tavolo sono molti in connessione, adesso chiedo Baldo di venirmi a fare da supporto concreto, e, apriamo il secondo, in connessione direi, perché poi la connessione è stretta, le tre critiche sono interpolate le une con le altre. Allora, passiamo al discorso della spazialità, della territorialità e anche dell'urbanesimo come una delle sue declinazioni. Però mi riaggancerei a quanto diceva Stefano Righetti nelle sue ultime parole, perché il convincimento è quello che ho anch'io di fondo, che alcune situazioni di urgenza siano già manifeste e che fatichino nel trovare, no, una interconnessione utile per diventare progettualità più attive. Dico questo partendo da alcune riflessioni sul quotidiano e sulle diciamo spazialità che noi viviamo e che rilancio poi riservandomi magari alla fine di dire qualcosa di più, perché credo che molto sia successo negli ultimi tempi. Molto sia accaduto e molto sia anche in estrema accelerazione. Non siamo privi di eventi, siamo affollati di eventi e siamo anche in una condizione forte dal punto di vista delle sue ricadute e dei suoi esiti. Dico qualcosa, allora non è inessenziale che gli esiti pandemici abbiano avuto una ricaduta sui tessuti materiali, sociali, urbani, territoriali di vita di rara eccezionalità, non solo per la sperimentazione della virtualizzazione, della comunicazione, del lavoro e quant'altro, ma anche per i processi di atomizzazione in corso. Allora, abbiamo delle chiavi di restituzione di tutto questo che sono piuttosto evidenti e sono le città in cui viviamo, i luoghi in cui lavoriamo, le situazioni in cui ci relazioniamo. In questa situazione qualcosa non solo è accaduto, ma a mio avviso è in forte processo di erosione. Che cosa voglio dire? Che se per un verso noi assistiamo a una virtualizzazione delle nostre esistenze sempre più forte e accelerata e per qualche verso anche spendibile, perché no? Per contro c'è una materialità quotidiana e urgente sempre più umiliata, sempre più in difficoltà, sempre più alle prese, con bisogni primari a questo punto. Io continuo a pensare che insomma il discorso di classe sia in diversa configurazione, ma sia lì, tutto intero è restituito nella sua durezza, in più di una classe che non ha possibilità di espressione perché non ha il suo referente né nelle rappresentanze né nella dimensione politica. Ora, in tutto questo, c'è qualcosa che ci sfugge. Ed è un processo di espulsione che nelle metropoli più grandi d'Europa, ma non solo, è in corso. È un processo di espulsione che va avanti attraverso processi molto concreti, non solo la gentrificazione, ma mettendo a rischio le condizioni elementari di vita, che vanno dal costo della vita quotidiana, degli affitti, della rendita, della mobilità, della possibilità stessa di accedere a servizi di prima necessità come la sanità, l'istruzione and so on. Cioè il processo di privatizzazione non ha cessato di avanzare, che è un processo di espropriazione concreta delle vite, e su questo un po' lo stava dicendo, no, Stefano, nelle sue ultime annotazioni, non è che non ci sia risposta, queste risposte sono semplicemente rese mute, rese invisibili, quando non represse, perché poi di questo dobbiamo parlare, insomma, non è che non, questo non accada. Allora, noi scontiamo una domanda alla quale rispondo con un'interrogazione di un autore che nei momenti di difficoltà mi sorregge sempre, che è Bruce Chatwin, che in un suo bellissimo libro, di tutti i suoi bellissimi libri che io amo molto, si chiede: che ci faccio qui? E ci faccio il qui ed ora. Cioè, il mio appello, e spero anche un po' no, la riflessione che vogliamo da qui far emergere, è che non è che abbiamo i tempi supplementari, non abbiamo i tempi ulteriori o quelli trascendentali a cui fare appello, dei quali francamente a me anche interessa molto poco. Noi abbiamo un qui ed ora dove posizionarci, e questo qui ed ora è marcato da la segnatura pesantissima dell'esclusione. Mai, se non in altre epoche storiche che hanno determinato dei passaggi fondamentali, si è assistito a un dentro fuori, potere non potere, sapere non sapere, perché anche l'accesso alla cosiddetta realtà virtuale, se non da soggetti passivi, non è così dato. Ora, io credo che in questo i territori urbani ci restituiscano delle processualità in corso che non sono leggibili solo con la gentrificazione, anche certamente sì, ma con qualcosa di più, con un intento, a mio avviso, trasparente, chiaro, di dedicare alcuni spazi, che sono spazi del comando a certi ceti, e lasciare ad altri la parte residuale del vivere, adattandosi di volta in volta a un nomadismo indotto e non scelto, che è quello di dover rifabbricare all'infinito la propria vita. Allora, questo impegno al dover rifabbricare all'infinito la propria vita, sappiamo a che cosa ci rimanda, no? Sii imprenditore di te stesso, sii capace di essere flessibile, sii capace di essere performativo, ma questa è una spesa di vita che si consuma in un tempo dato, delle singolarità e delle collettività, alle quali, come dire, nessuno di noi, io credo, poi se qualcuno è capace, io no, lo dichiaro, è in grado di far fronte. Non c'è illusione di sottrazione rispetto a questo meccanismo. Io concordo, no, su molte analisi, come dicevi anche tu prima, Ubaldo, su rompere il meccanismo, disattivare. Sì, ma fino a un certo punto, perché non c'è una forza di penetrazione così, come dire, frangibile, sulla quale possiamo pensare davvero di mettere in scacco una mega macchina, direbbe Gorz, che è una mega macchina che, insomma, è più che rodata. Non è una mega macchina unidirezionale, non ha un unico centro, no, del controllo del cervello, ma è una mega macchina ben rodata nel fare il suo mestiere. Qual è il suo mestiere? Il mestiere, per dirla con Deleuze, è quello del sistema di controllo. Il sistema del controllo è un sistema che deve gestire la complessità, deve gestire territori che diventano sempre più aggressivi. Io non so se sia la vostra stessa percezione, ma dal periodo post-pandemico e di guerra permanente nel quale siamo entrati, le singolarità sono rese particolarmente aggressive. Perché? Perché spogliate di ogni significanza del loro vivere. Allora, l'impoverimento della significanza dell'esistere individualmente, ma anche socialmente, perché comunque la relazione per noi esseri umani è fondamentale, oggi è in questione. Non è vero che ne usciamo con delle relazioni che si ricuciono così facilmente. Le relazioni sono a rischio, sono il punto debole sul quale si insiste per continuare a frammentare, frantumare una socialità che pure però intercetta. Ha chiaro, a mio avviso, quali sono i punti critici. E sui punti critici poi chiudo per lasciare la parola agli altri amici. Sono in poche parole la sopravvivenza, il lavoro. E qui bisogna che pure ci iniziamo a ripensare la questione che il lavoro ha una centralità attraverso la quale un sistema di ricatto passa in maniera drammatica. Perché se io non ho banalmente i mezzi della sopravvivenza, ma altro che, voglio dire, divagare, io devo far fronte a un quotidiano che è un quotidiano sotto ricatto permanente. Se il lavoro mi spinge a delle condizioni di alienazione che neanche mi permettono, come dire, di intravedere o programmare una linea di realizzazione, ma sono uno schiavo di età coloniale, nel puro semplice, sono un operaio della prima rivoluzione industriale, senza casa, senza diritti, senza lavoro. Cioè, io credo che ci sia anche del vecchio in quello che torna, del vecchio nel senso di già esperito, che sono le condizioni di schiacciamento violentissime alle quali si assiste ogni qualvolta una fase, una crepa, una frattura si produce, perché il processo di adeguamento tecnico, politico e anche ideologico si mette in corsa a fronte di una umanità sempre poi più pesante, numerosa, demograficamente importante, deve far fronte. Quindi ogni questione anche ecologica non può prescindere da questa antinomia così radicale, no? Queste cose, insomma, sono un po' passatista, quasi vichiana, si sono vissute, certo con numeri diversi, certo con contesti diversi, ma la divaricazione negli spazi in cui viviamo, nei territori in cui abitiamo, nei luoghi di lavoro in cui ci spendiamo, siano essi virtuali, e sempre un po' pochino rispetto a quanto sono materiali, consuma una frattura dovuta a un'accelerazione che era nell'aria e che nell'oggi, nell'attuale, coincide con processi di controllo necessari a governare una tale complessità. Qui mi taccio e passo volentieri la parola agli altri amici che sono in connessione con noi. Chi c'è per primo e si annuncia? Vediamo. E Cosimo, sì, anche Stefano. Allora questo Stefano. Vediamo chi è che c'è per primo. Vediamo. Sì, mi sentite? Sei Cosimo, vero? Vai Cosimo. Sì, allora mi ricollego un po' a quello, al tema di questo tavolo e a quanto detto anche da Tiziana, il tema del tavolo, critica dell'urbano e le forme di controllo. Ora, quindi direi anche critica dell'urbano, dell'organizzazione, della strutturazione dell'urbano, della complessità urbana che è storicamente data dai dispositivi urbanistici e in che modo questi siano legati a diverse tecnologie di controllo, che sono anche tecnologie di controllo spaziali che agiscono sulla spazialità su, e sui corpi che occupano questo, questo spazio. Ora, prima di entrare nel vivo, dovrei partire da una citazione. Allora, perché su di Guy Debord, perché su l'urbano e sui processi di atomizzazione legati a, all'urbanismo in quanto tecnologia, scienza e tecnologia di controllo dell'urbano, ha dedicato anche una parte importante del suo testo principale, La società dello spettacolo, e della pratica che ha intrapreso con l'internazionale espansionista. Anche se i contesti sono differenti, e poi vedremo in che modo sono differenti, penso che ci siano degli spunti che potrebbero interessare la discussione attuale. Allora, rileggo questa citazione, che è la tesi numero 172 della Società dello spettacolo, in cui Debord definisce, dice, l'urbanismo è il compimento moderno del compito ininterrotto che salvaguardia il potere di classe, il mantenimento dell'atomizzazione dei lavoratori che le condizioni urbane di produzione avevano pericolosamente riunito. La lotta costante che ha dovuto essere condotta contro tutti gli aspetti di questa possibilità di incontro trova nell'urbanismo il proprio terreno privilegiato. Lo sforzo di tutti i poteri costituiti dopo l'esperienza della Rivoluzione francese per accrescere i mezzi di mantenimento dell'ordine nelle strade culmina finalmente con la soppressione delle strade stesse. Con i mezzi di comunicazione di massa sulle su grandi distanze, l'isolamento della popolazione si è rivelato un mezzo di controllo molto efficace, constata Lewis Mumford in La città nella storia, descrivendo un mondo ormai a senso unico. Ma il movimento generale dell'isolamento, che costituisce la realtà dell'urbanismo, deve anche contenere una reintegrazione controllata dei lavoratori, secondo le necessità pianificabili della produzione e del consumo. L'integrazione nel sistema deve recuperare gli individui in quanto individui isolati insieme. Le fabbriche, come le case della cultura, i viaggi delle vacanze, come i grandi agglomerati, sono organizzati in modo specifico ai fini di questa pseudo collettività che accompagna anche l'individuo isolato nella cellula familiare, ovvero l'impiego generalizzato dei ricevitori del messaggio spettacolare fa sì che il suo isolamento si ritrovi popolato delle immagini dominanti, immagini che solo per questo isolamento acquistano la loro piena potenza. Ora, cosa sta dicendo Debord? Debord, quindi, in questi passi che vi ho letto, quindi mette in relazione descrive l'urbanismo come la precondizione materiale della affermazione stessa della società dello spettacolo, ovvero l'atomizzazione delle classi popolari, i dispositivi di separazione, di atomizzazione delle classi popolari, del proletariato che è seguito ai processi di accumulazione aveva costituito aveva trasformato le città nel XIX secolo, come dei campi nomadi difficilmente controllabili. Quindi l'urbanismo in quanto atomizzazione è la precondizione stessa poi della affermazione della società dello spettacolo, ovvero e della di questa riunione fantasmagorica degli individui in quanto individui isolati insieme. E ora, ovviamente, l'analisi di Debord si riferisce a il periodo propriamente da quello della società fordista, però delinea delle linee che sono costanti hanno vari sviluppi anche nella società attuale e sono anche consustanziali in certo senso allo sviluppo del capitalismo, ovvero da una parte l'intervento, le tecnologie di controllo in quanto tecnologia di automatizzazione e di separazione, e dall'altro la necessità di riunire questi di creare una nuova unità fantasmatorica creando una partecipazione illusoria e controllata degli individui isolati insieme. Allora, sulla questione dell'atomizzazione, altri dispositivi che possono essere messi in relazione cui avevo accennato nel mio intervento della questa mattina. In particolare, se le istanze le tecnologie, penso a vari dispositivi di identificazione e sorveglianza. Se prendiamo quindi in considerazione l'esempio della storia francese, un primo momento un primo esempio di questi dispositivi di identificazione è il libretto operaio, questo dispositivo creato da Napoleone che serviva al controllo delle condotte e della mobilità degli operai stessi, che appunto erano la rivoluzione industriale aveva e i processi di accumulazione primitiva avevano riunito in maniera massiva, in modo massivo, nelle grandi città. Pensiamo ai carnet anthropometric sviluppato alla fine del XIX secolo per il controllo della popolazione nomade e anche alla nascita della carta d'identità e sono dispositivi che storicamente avevano la funzione di di concentrarsi su sui corpi in quanto riducendoli a dati biometrici e facilmente quantificabili. Ora l'urbanismo quindi interviene in quanto non solamente è una tecnologia che colpisce i corpi, ma colpisce l'ambiente, la rimodulazione stessa dello spazio e delle modalità di relazione tra i corpi stessi. C'è una sorta di psicogeografia del capitale, in quanto l'idea è di ridefinendo che muove diverse tecnologie, modalità di intervento dello spazio, sono basate sull'idea che ridefinendo la materialità dell'organizzazione della città e soprattutto dell'ambiente, delle classi subalterne o dei popoli colonizzati, si interviene anche sulle condotte e sulle modalità sui processi di produzione di soggettività propria alle classi subalterne, in modo da costruire un ambiente più facilmente in cui i processi di accumulazione siano più facilmente sia più adatto appunto ai diversi processi di accumulazione. Quindi questo è un po' un basso continuo delle diverse tecnologie di controllo e di intervento dello spazio. E l'unione tra appunto tra una tecnologia che interviene sul corpo, quindi sull'individuo, estraendole quindi dati biometrici, e delle tecnologie che intervengono sullo spazio, quindi ridefinendo lo spazio vitale dei corpi stessi, abbiamo una declinazione di questa di unione di queste due tecnologie. L'abbiamo ad esempio nella cibernetica, in quanto la cibernetica non prende per la cibernetica non c'è l'uomo e il suo ambiente in quanto separato, ma c'è un essere sistema iscritto in un insieme di complessi sistemi di informazione. L'oggetto del governo cibernetico è l'ambiente sociale che costituisce l'uomo stesso, ma e allo stesso tempo l'oggetto del governo cibernetico è l'individuo però costituito solo dalla sua esteriorità, un individuo che una sorta di individuo quantitativo di cui si vorrebbe misurare e ottimizzare ognuno dei suoi gesti, e che è indotto a voler misurare e ottimizzare ognuno dei suoi gesti. Però queste dinamiche però hanno una ovviamente hanno una declinazione Uh, una declinazione in termini di classe e sono legate, questa declinazione in termini di classe è legata a una, anche all'aspetto, alla connessione con lo sviluppo della, con la dimensione della guerra, quindi lo sviluppo dell'apparato militare. In che modo? Cosimo, allora, scusa. Ora, sulle origini militari della cibernetica non sto a... Cosimo, Tiziana, scusami, ancora un paio di minuti perché dobbiamo far intervenire anche gli altri relatori e i presenti. Grazie. Ok. No, allora, salto... Volevo appunto sottolineare soprattutto che negli ultimi anni appunto lo sviluppo dell'interconnessione tra le tecnologie digitali e le infrastrutture urbane avviene all'interno di un paradigma prettamente militare. Ad esempio, delle nozioni come nozioni militari, proprio quali tracciamento, identificazione, localizzazione rispetto agli spazi, agli spostamenti, la vita quotidiana che sono dominanti nelle strategie di governance urbana, caratterizzano anche lo sviluppo di nuovi di nuove delle nuove tecnologie. E all'interno tutto lo sviluppo di quello che è stato definito l'Internet of Things, ovvero l'internet 3 o 4.0, ovvero la creazione di dispositivi elettronici interconnessi a oggetti della vita quotidiana e a spazi urbani, è declinato attraverso le modalità militari e che penso ad esempio anche a delle l'utilizzo di droni di tecniche di sicurezza coloniale, ad esempio, che sono stati sviluppati in Israele nella guerra coloniale contro il popolo palestinese, che poi sono importati ad esempio in Francia e utilizzati ultimamente nel quadro della nuova legge sulla sicurezza globale la declinazione della tecnologia digitale e guerra si declina anche in una guerra costante contro i poveri e le classi subalterne e controllo perpetuo delle condotte dei poveri e delle classi subalterne. E, ad esempio, penso in Francia ai nuovi algoritmi messi in piedi dalla CAF, che è l'istituzione che gestisce il piano di aiuti o verso delle popolazioni più fragilizzate, e questo algoritmo prevede un uso maggiore di controlli contro quello che è chiamato la fraud sociale verso persone che sono disoccupate da croniche o persone straniere che abitano in determinati quartieri. Quindi il modo in cui è scritturato questo algoritmo fa in modo che determinate persone che hanno appartenenti a determinate classi subalterne abbiano dei controlli più pesanti, l'algoritmo spesso depoliticizza questi controlli stessi, rendendoli quasi attraverso il discorso prettamente tecnicista. Ora, okay. Poi vorrei, sarebbe da discutere insieme anche su che uso fare delle tecnologie, soprattutto quale uso in relazione allo spazio urbano, e la questione da porre sarebbe quella del détournement, ovvero del rovesciamento, e se fosse possibile un détournement di queste tecnologie, ovvero il détournement, ovvero un ribaltamento d'uso, quindi come se è possibile ridefinire l'uso di alcune tecnologie che sono nate all'interno di un certo paradigma, come renderle funzionalmente differenti, e se è possibile un uso emancipatorio e al di fuori da paradigmi di controllo. Grazie Cosimo, io direi che adesso, se Francesco c'è, ci sei Francesco? Ci sono, mi sentite? Sì, ok, passo la parola a te. Mi raccomando, diamoci tempi perché c'è ancora il terzo tavolo, visto che stiamo andando in successione. Prego. Va bene, casomai provo a tagliare delle cose mentre parlo. Vado veloce. Allora, come dicevo durante la plenaria di questa mattina, dico questo per riagganciarmi velocemente al tavolo, Gaia ci porta a domandarci come acquisire margini di potere captando in tutte le direzioni il massimo di forze possibili, dicevamo, no? Impegni possibili, forze da captare, acquisire margini di potere, creare storie, nuove significazioni nell'incontro, fare incontri, sperimentare impreviste e nuove pratiche, capacità di agire e di pensare. E questo mi riconnette con il tema complessivo di queste due giornate, cioè filosofia critica della vita quotidiana. Le strade del pensare, dell'immaginare, del creare e inventare assieme sono percorsi molto difficili da praticare nella vita quotidiana, e come ricordava Deleuze, il nome della creazione che ho qualcosa da dire a qualcuno, arte creativa non commerciale, tutto ciò che è commerciale non fa altro che comporre o rivelare un prodotto che risponde all'attesa del pubblico. Mi viene in mente anche quello che diceva Gianluca prima su questo. La pubblicità può anche scioccare o voler scioccare, ma risponde comunque a una presunta attesa. L'arte si muove in tutt'altra direzione, in quanto produce invece necessariamente un che di inatteso, di non riconosciuto, di non riconoscibile. Non è un caso proprio su questo che Lefebvre sostenesse che la nozione di creazione si sta dissolvendo, lasciando sempre più spazio a parole come fare o creatività, e che la borghesia progressista non crea più, sostituisce semplicemente l'opera con il prodotto, e che il proletariato sta assopendo nella propria coscienza la capacità creativa. Cominciano, secondo me, così ad emergere dei nodi che hanno a che fare con le cose che sono state già dette oggi e con il tema di questo tavolo, critica dell'urbano e delle forme di controllo. Passaggio velocissimo, che cos'è l'urbano? Riprendo di nuovo Lefebvre. Lefebvre proponeva una distinzione rischiosa, la definisce lui stesso così, tra urbano e città, sostenendo che la città sia una realtà presente, mediata, architettonica, e che l'urbano sia invece una realtà sociale composta da rapporti da elaborare, da costruire o ricostruire con il pensiero. Dice: la vita urbana, la società urbana, in una parola l'urbano, non possono fare a meno di una base pratico-sensibile di una morfologia. E qualche pagina dopo, la città non è un luogo passivo di produzione o concentrazione dei capitali, ma l'urbano interviene come tale nella produzione. È il luogo del desiderio, del legame, dei tempi, il campo dei rapporti, un insieme di differenze. Su questo mi è tornato in mente Gabriel Tarde, e la sua idea di società, nel senso l'idea di Gabriel Tarde è che le società che non siano le società ad essere degli organismi, ma gli organismi ad essere diventati delle società di tipo particolare. Tarde infatti propone un mondo squilibrio, un mondo che diviene, nel quale la differenza è l'aspetto sostanziale delle cose, ciò che hanno di più caratteristico, di più comune, che ha delle tendenze e che desidera. Il mondo è mosso dalle credenze e dai desideri, e anche quelle masse che sembrano prive di organizzazione sono in realtà composte e assemblate da numerosissimi e piccolissimi corpi. C'è sempre un incastro di possibili che agisce su tutte le combinazioni possibili delle possibilità totali del mondo, in un gioco di ridefinizione continua. Quel che però accade, che secondo me è interessante, è che non tutti i possibili sono possibili contemporaneamente, ci sono diverse gradazioni di possibili di cui si può disporre in un certo spazio-tempo. La vita, scrive, non è che un modo d'azione più ristretto dei fatti futuri, un concatenamento particolarmente vigoroso di influenze. Sengers scriverà che l'esistenza degli altri non ci complica la vita, ma ci costringe a riconoscerne la complicazione. A questo punto vorrei proporre un po' di suggestioni che in buona parte sono già state attraversate dagli interventi precedenti. La prima ha a che fare con l'attraversabilità ai corpi. Qua attorno a Virilio, che riprendo anche più volte nel contributo che ho scritto per questo nuovo numero di Mille Piani, e nella prima pagina di Città Panico Virilio cita Walter Benjamin e quindi dice: non sapersi orientare in una città non vuol dire molto, ma smarrirsi in essa, come ci si smarrisce in una foresta, richiede tutta un'educazione. Questo smarrimento ha a che fare per Virilio con l'educazione di un passante che si rifiuta di essere solo un passeggero andando verso una libera fuga. Una stessa strada, dice, cambia a seconda di come viene percorsa, a piedi, in bici, sorvolata in aereo. E non a caso, secondo me, riprende Rimichaud rispetto alla questione della potenza del tragitto, il corpo che si muove nell'orientamento della sua potenza locomotrice, dal momento che non c'è vita che nelle pieghe, le pieghe di un terreno che protegge, o il ripiegarsi di un catasto che sorprende le nostre aspettative. Ci parla lo stesso testo della metropolitana come un'arte viaria, un battistrada continuo, usando dei toni che mi ricordavano un po', se vuoi, come suggestione Cadolli quando cantava a poco più di 20 anni Angoscia metropolitana. Comunque la scoperta si è trasformata in abitudine, in assuefazione allo spazio dei quartieri, e quando, qua sto citando sempre Virilio, e quando cominciamo a ritrovarci questa chiara visione si attenua per lasciare posto a un accecamento che favorisce il riconoscimento automatico dei luoghi. La città diventa un'agglomerazione, una metacittà, e noi oggetti passeggeri programmati dalla nostra propria motricità, così come dal sistema viario dei quartieri. Trovato anche un passaggio di Van Eygem, non ho mai capito come si pronuncia, su questo, in cui dice che la circolazione è l'organizzazione dell'isolamento di tutti, è il contrario dell'incontro, l'espropriazione delle energie disponibili per gli incontri o per qualunque tipo di partecipazione. La partecipazione divenuta impossibile viene risarcita come spettacolo. Poi l'attraversabilità ovviamente ha a che fare con i corpi nello spazio, quali corpi possono attraversare certi spazi, come possono attraversarli, i corpi e i margini, ma qui diciamo lascerei questo a Tiziana. Un'altra cosa che è emersa e che vorrei riprendere è la questione della velocità, e lì ovviamente riprendo sempre Virilio che propone una velocità relativa, cioè una velocità che riguarda il trasporto, lo spostamento dei corpi, delle merci, tutto ciò che sta dentro la conquista territoriale di uno spazio reale, e dall'altra parte una velocità assoluta che ha a che fare con la trasmissione dei messaggi, dell'interattività, che ha a che fare con la conquista dell'assenza di estensione dell'istantaneità. Nel 2004, quando fu pubblicato questo testo, Città Panico, Virilio scriveva che senza distanza e senza termine lo stato di emergenza si generalizza, diventa uno degli aspetti misconosciuti dell'incidente integrale dell'economia politica. Questo passaggio, soprattutto oggi, mi pare molto interessante, e ancora, sempre in riferimento alla velocità, viene definita anche come la più grande catastrofe del... Scusate, ho sbagliato. E sempre in riferimento alla velocità, la più grande catastrofe del XX secolo è stata la città, la metropoli contemporanea a disastri e progresso. Anche questo mi sembra molto interessante rispetto a cosa ci siamo detti. Un altro punto che vorrei toccare riguarda l'immaginario. Quanto tempo ho ancora per regolarmi? Poco. Senti, mi sentite? Ancora 2-3 minuti, va bene? Mi senti, Francesco? Sì, sto chiedendo quanto tempo ho ancora, vai, per regolarmi. 5 minuti, dai, 5 minuti ancora, vai. Ok. Ok, allora la questione diciamo dell'immaginario. Nei contesti urbani, in modo particolarmente efficace, ci sono sempre, per dirla con Lefebvre, luoghi e momenti che non sono liberi, in quanto messi sotto pressione dal mercato, attraversati da rapporti che condizionano il profitto. In queste condizioni la cultura non fa altro che dissolversi, diventando continuamente oggetto di consumo, occasione di profitto, produzione per il mercato. Virilio scriveva che oggi per creare un evento bisogna rompere il mimetismo, la modellizzazione pubblicitaria, questa propaganda ormai cibernetica che è senza dubbio il più grave inquinamento. Un inquinamento non più ecologico ma etologico e mentale che accompagna la mondializzazione dei comportamenti sociali. E quello che propone sono conflitti, pensieri, idee che rompano radicalmente con questa sincronizzazione delle emozioni dell'era dell'informazione, che ricordiamo l'informazione per Deleuze è proprio il sistema del controllo, il sistema controllate delle parole d'ordine che valgono in una determinata società. Uno spettacolo, per dirla con Debord, secondo cui appunto l'inquinamento è oggi alla moda, esattamente come la rivoluzione, si impadronisce tutta la vita della società ed è rappresentato illusorialmente nello spettacolo. Per Virilio stiamo andando incontro inesorabilmente a un sempre maggiore e pericolosa chiusura dell'immaginario, stretto nella morsa della sincronizzazione dell'opinione, della priorità di una cronopolitica dell'istantaneità che permetta alla velocità di raggiungere l'immaginazione politica, sostituendo l'otticamente corretto al politicamente corretto. Quello che avviene quindi è una chiusura dell'immaginario che, in ambiti che dovrebbero essere critici, porta anche a speranze mortifere e distruttive, fino a chi invoca l'estinzione. Dopodiché c'è la questione del tempo che vorrei riprendere, che poneva anche prima Tiziana. Voglio prenderla attraverso delle strade un po' diverse, ma che si incrociano. Torno ancora una volta, per l'ennesima volta, a Virilio, che parla di una tirannia del tempo reale, questo incidente del tempo di una istantaneità frutto di un progresso tecnico politicamente non controllato. Su questo mi sia consentita una citazione a Debord, scrive: io penso sia perché la vita quotidiana è organizzata nei limiti di una povertà scandalosa, ma soprattutto perché questa povertà della vita quotidiana non ha nulla di accidentale, una povertà che le viene imposta in un istante dalla costrizione e dalla violenza di una società divisa in classi, una povertà organizzata storicamente secondo le necessità della storia dello sfruttamento. L'uso della vita quotidiana nel senso di un consumo il tempo vissuto viene imposto dal regno della rarità, rarità del tempo libero e rarità dei possibili impieghi del tempo libero. Lefebvre, come sappiamo, mette a critica il tempo libero, sostenendo come gli spazi del tempo libero appaiano affrancati dal lavoro e liberi quando invece sono uniti ai settori del processo lavorativo nel quadro del consumo organizzato, del consumo dominato, luoghi dove recuperare le energie per essere performanti il giorno dopo al lavoro, apparentemente luoghi di festa e libertà, luoghi in cui si riproducono i rapporti di produzione, il che poi non esclude, ma semmai include, la riproduzione pura e semplice della forza lavoro. Uno spazio da una parte disgiunto, disarticolato, confuso, dall'altro organizzato e ricomposto da parte del potere. Il tempo è una merce suprema e si vende e si acquista. Il tempo si organizza in funzione del lavoro produttivo e della riproduzione dei rapporti di produzione nella quotidianità. Come lo spazio sembra dislocato, così il tempo di lavoro, libero, vincolato, quello che volete, è organizzato. E questi tempi, organizzati in modo dislocato, proprio per questa caratteristica, nella loro azione comune, producono più ricchezza. Faccio un ultimo passaggio e termino davvero su critiche e pratiche. Urge un'analisi critica, lo sappiamo, che definisca, direbbe così Lefebvre, come e secondo quale strategia è stato prodotto lo spazio esistente. Di certo ad opporsi alla forma e alla strategia sono gli utenti di quello spazio, proprio perché lo spazio è un prodotto sociale. Per Van Eygem il principale successo dell'attuale pianificazione delle città e di far dimenticare la possibilità di ciò che chiama situazionismo unitario, vale a dire la critica vivente, alimentata dalle tensioni di tutta la vita quotidiana, di questa manipolazione delle città e dei loro abitanti. Una critica vivente che stabilisca delle basi per una vita sperimentale, aggregazione di persone che creano la propria vita su luoghi attrezzati a loro misura. Gattari, e me ne scuso, ma vengo da 10 giorni in discussione quotidiana su Gattari, suggerisce di pensare trasversalmente le interazioni tra ecosistemi, meccanosfere e universi di riferimento sociale e individuali. Cosa significa? Che bisogna ripensare le relazioni, allora, il modo in cui si vive e si interagisce, il rapporto con il linguaggio, adoperandoci alla ricostruzione dei rapporti umani a tutti i livelli del sociale, consapevoli che non stanno scomparendo solo le specie, ma anche le parole, le frasi, i gesti della della solidarietà umana, e che, come scriveva Gorze in Ecologia e Libertà, senza la trasformazione dei mezzi di produzione, il cambiamento della società resterà formale e illusorio. Bisogna allora allargare il concetto di politica, integrandovi l'insieme delle dimensioni micropolitiche che impegnano diversi modi di vivere, di sentire, di parlare, di progettare l'avvenire, di memorizzare la storia. Nel Capitale, per Gattari, non vi è solo una discontinuità che opera a partire da flussi di segni, flussi materiali, flussi sociali. Il Capitale si alimenta delle sue contraddizioni, costituendo in questo modo altrettanti stimoli di deterritorializzazione. Tanto che, cito dalle tre ecologie, se è vero che il potere capitalista si è delocalizzato, deterritorializzato, sia in estensione, ampliando la sua influenza sull'insieme della vita sociale, economica e culturale del pianeta, sia in intenzione, infiltrandosi dentro gli strati soggettivi più inconsci, allora forse non è più possibile pretendere di opporvisi soltanto dall'esterno, attraverso le pratiche sindacali e politiche tradizionali. È divenuto allora imperativo affrontare gli effetti del capitalismo attraverso l'articolazione di tre ecologie anche all'interno della vita quotidiana, individuale, domestica, coniugale, di vicinato, di creazione. Sempre come scriveva Gattari, i diversi livelli di pratica non solo non devono venire omogenizzati, ma al contrario è opportuno impiegarli in processi di eterogenesi. Gli individui devono diventare contemporaneamente solidali e sempre più differenti, produrre nuove concatenazioni, nuove macchine da guerra rivoluzionarie per interrompere la logica totalitaria del capitalismo e per organizzare la socialità su altre basi. Per tornare alle febbre, salto tutta una parte, bisogna mettere in pratica un'arte intesa come capacità di trasformare la realtà, di appropriarsi il più possibile dei dati del vissuto, del tempo, dello spazio, del corpo e del desiderio. La filosofia stessa non può realizzarsi senza che l'arte, come modo di fruizione del tempo e dello spazio, non si compia pienamente nella pratica sociale. Ho finito, vi chiedo scusa per la lunghezza. Grazie Francesco. Io chiederei a Stefano Selì di farsi avanti. Vi ricordo che abbiamo tutto un terzo tavolo ancora da aprire. Grazie. No, io ci sono. Adesso stavo, provo a riaccendere la telecamera, se no la spengo. Perché... Ma allora, no, sarò breve. Quindi, però volevo dire due cose che, cioè, se vogliamo che un così il nostro lavoro si articoli in termini, diciamo così, tra virgolette, utili, dobbiamo però cercare anche di evitare, credo, due cose. Uno è così, la ripetizione di concetti assunti in modo universalistico e astratto, e due, cercare di ridefinire invece una serie di concetti su quello che oggi in qualche modo si evidenzia a livello sociale. Allora, secondo me, qui occorre una ridefinizione di città, di società e di controllo. Altrimenti non capiamo alcune articolazioni sociali che si stanno creando e si stanno determinando a livello, direi, piuttosto evidente, perché se noi ragioniamo in termini di controllo, definendo il controllo quello che era, che poteva apparire il controllo negli anni 50 o 60, o anche un certo uso del controllo che oggettivamente viene fatto, però allora non capiamo tutto un certo una certa inversione di valori all'interno della società stessa, perché dovrebbe essere allora una società completamente consapevole, rivolta contro e verso il controllo, no? Io invece distinguerei, andrebbe anche qui distinto tra una sorta di condizione macrosociale e microsociale. Non possiamo continuamente utilizzare lo stesso schema per raccontare e descrivere fenomeni sociali che sono collegati ma che sono anche differenti, no? Perché il paradosso, vi lancio questa provocazione, ma sarebbe interessante approfondirla forse, il paradosso a cui stiamo assistendo a livello microsociale è che non c'è una denuncia di eccessivo controllo, ma c'è una richiesta di maggiore controllo. Allora, su questo, secondo me, bisognerebbe cominciare a interrogarsi, perché altrimenti, appunto, si costituisce un livello della teoria che ragiona per concetti fini a se stessi, letterari e librari, e non si riesce a fare quello che dicevamo prima, cioè a creare questo collegamento quei conflitti sociali e anche appunto con quello che si determina a livello di percezione sociale. Non sempre i conflitti sociali sono conflitti positivi, e anche su questo si dovrebbe giocare un ruolo del pensiero e della teoria. Non sempre i conflitti sociali sono progressivi, possono essere anche regressivi, come sappiamo bene. Quindi dividerei bene i temi e gli argomenti e anche i concetti. Quello che fa il governo in Francia, ma se pensiamo a quello che fanno in Cina, è un aspetto, ma contemporaneamente dobbiamo contemplare che a livello microsociale c'è una richiesta opposta. Cioè c'è una richiesta che andrebbe nello stesso senso, diciamo, opposta rispetto alle critiche che ho sentito prima. Quindi credo che per analizzare questi fenomeni e anche per riflettere in modo nuovo e diverso su che cos'è una società oggi, su cos'è la società oggi, per esempio anche sulla divisione all'interno delle città, sulla divisione sociale all'interno delle città, anche su questo andrebbe fatta una discussione molto ampia, perché non è più così, c'è la questione periferia e centro, ma vediamo che anche a livello centrale stanno succedendo cose completamente diverse da questa semplice differenziazione, no? Allora credo che sarebbe interessante riarticolare i concetti di città, società in funzione del concetto di controllo, ridefinire come questi concetti in qualche modo si articolano tra di loro, distinguendo fenomeni macrosociali e microsociali. Io non posso analizzare quello che succede all'interno della società, per esempio, prendendo ad esempio a riferimento il sistema di controllo che avviene alle frontiere. Sono ovviamente due processi di controllo completamente diversi, che danno luogo a due funzioni di controllo completamente diverse e che danno anche luogo a due percezioni del controllo completamente diverse. No, se no non capiamo quello che sta succedendo a livello delle società occidentali. A livello politico intendo. Cioè, non capiamo la prorompente affermazione della destra se non riusciamo a riarticolare una critica in questo senso, perché non è, non c'è la percezione di un eccesso di controllo a livello microsociale, c'è semmai la percezione di un difetto di controllo o comunque di un controllo non efficace. Questo secondo me è un tema che andrebbe necessariamente affrontato nel momento in cui si descrive il funzionamento, l'articolazione di una, di un rapporto società-città. Mi fermerei con questa provocazione. Sì. Bene, allora, comunque se vuoi qualche minuto ce l'hai ancora, Stefano? No, no, ma insomma quello che mi interessava era mettere in luce questi aspetti, perché voglio dire, cioè, sono aspetti che un certo pensiero critico ha comunque avuto presente. No, cioè, sono anche necessarie piste di dibattito, è necessario insomma questa puntualizzazione. Io chiederei se c'è qualcuno, Nicola, che è prenotato, se no passerei al terzo tavolo, in modo che poi cerchiamo di dare un minimo di sintesi prima della restituzione di domani. C'è qualcuno? Perché ho visto che un po' ci stanno seguendo. Sì. Prego. Okay. Allora a questo punto inviterei Igor, il terzo tavolo, al prosieguo dei lavori. Funziona? Ah sì, giusto, diciamo che sì, purtroppo Pier Giorgio, che doveva essere con noi, comunque avrebbe dato una parte sostanziosa a questo tavolo, ha avuto dei problemi per il quale non è potuto essere qui, quindi ci auguriamo che comunque il tema sia almeno a livello di indice abbastanza incisivo, ecco, nonostante noi siamo in due, ecco. Rispetto a quello che diceva Stefano, che secondo me è molto importante, volevo portare un'esperienza legata all'insegnamento, no? Quindi il continuo contatto con ragazzi e ragazze di qualsiasi tipo di orientamento sessuale, soggetti razzializzati, eccetera. Ciò che secondo me pare importante è che la questione individuale tocchi a livello emotivo coloro che si presentino in questo nuovo contesto. Anche atti, diciamo, di autoritarismo rispetto dati da professori sulla classe non vengono più in qualche modo riorganizzati all'interno della classe e in qualche modo contrastati. Fanno riferimento a delle possibilità di introspezione diversa rispetto anche a 10 anni fa, quando io andavo a scuola, ad esempio, no? Ciò mi porta a dire che esiste ancora una possibilità di disobbedienza civile in quanto intrinseca alle specie viventi e specie umana in primis. La trattazione di Arendt sulla disobbedienza civile si pone in funzione della guerra in Vietnam, ma secondo me la chiave di lettura importante riguarda il fatto che in qualche modo continuamente esistano atti di disobbedienza civile che non fanno riferimento ai disobedience, no? Ma proprio come pratica di vita, e questo può sì variare a seconda degli stati sociali o comunque a una predisposizione sociale che riguarda un determinato periodo storico, ma cambia delle modalità. Queste modalità Forse sono ancora da scoprirsi, forse fanno riferimento a questioni che possono essere rimodellate, possono essere riscritte, ma che comunque, come giustamente gli altri tavoli dicevano, si contestualizzano all'interno di delle territorialità che sono particolarmente messe in crisi. Secondo me cos'è cambiato rispetto alla questione precedente? Insomma, Deleuze si è pronunciato sul controllo, Bauman ha parlato di modernità liquida, Heller si è nell'ultima parte parla di etica, proprio insegna un'etica di vita che secondo me è anche discutibile, nel senso in qualche modo dialettica. Secondo me è centrale il problema dell'utenza. L'utenza garantisce una certa predisposizione di concessione di diritti piuttosto che un diritto acquisito. Cosa voglio dire? Nel momento in cui mi iscrivo a un social network, io ho su cui basarmi delle regole già prestabilite. E questo modello è stato applicato a tutte le istituzioni statali. Quindi non che prima ci esistesse effettivamente un diritto acquisito, ma la cosa era più livellata dal mio punto di vista. Cioè la concessione dei diritti, anche attraverso le lotte operaie di classe, eccetera, femministe, perché dobbiamo dire anche questo, che non è stato detto fino adesso, permettevano una ridistribuzione del diritto che era necessariamente collettivista. All'interno del contesto dell'utenza, sul piano individuale, la ridistribuzione collettivista, collettiva potremmo dire, non è più praticabile. Questo è un, secondo me, un dato da tenere sott'occhio. In qualche modo, nel momento in cui non c'è più stata richiesta, nel momento in cui non c'è più stata una possibilità di scambio collettivista, è subentrata l'idea di utenza e quindi una netta separazione tra l'individuo e la collettività. In questo caso io non credo che la libertà individuale possa essere guadagnata e sia la base della possibilità della liberazione sociale, perché l'individuo stesso deve sempre far riferimento a un potere per poter sopravvivere. E questo potere è assolutamente legato indissolubilmente all'individuo attraverso la dipendenza, come si parlava prima. Cioè, non possiamo immaginarci oggi un mondo in cui non dipendiamo in qualsiasi cosa da questo sistema, che possiamo definire neocoloniale, patriarcale, capitalista. Sono comunque termini che fanno riferimento a delle dottrine, a dei dispositivi, a una possibilità morale di gestione del potere che non riguarda una verticalità, cioè che riguarda una verticalità, cioè un'impossibilità di ridistribuzione dello stesso. E forse qui la questione della ridistribuzione degli affetti, che è importante. Gli affetti non intesi in maniera perbenista o moralista, ma la possibilità intrinseca di ridefinizione delle collettività, basandosi però, attenzione, sull'idea d'utenza. Quindi dal mio punto di vista è imprescindibile considerarsi oggi al di fuori del contesto sistemico, tra virgolette, se non si prende in considerazione l'idea di individuo. Cosa ho notato sulle nuove generazioni, le cosiddette nuove generazioni? Che fanno riferimento a un dispositivo. Questo dispositivo è quello della lotta per la sopravvivenza. Leggendo Darwin, cosa scopriamo? Che il primo capitolo, che parla della domesticazione, cioè di come selezionare le specie a livello domestico, Questa è possibile nel momento in cui ci sia innanzitutto un uomo totalmente civilizzato, quindi sia specie vegetali sia specie animali non possono essere selezionate se non da un uomo civilizzato, e in più in funzione di un apparato estetico, quindi la specie di cane deve essere bella, e c'è una trattazione di Darwin che parla delle pere, che le pere debbano essere buone. E penso di poter concludere. È ovvio che quindi tutta una parte di mondo non incivilito non può far riferimento a Darwin, ma il dispositivo morale della lotta per la sopravvivenza, ovvero dell'individuo che si rifà a un potere per acquisire maggiore potere, come ad esempio la fama, l'essere famosi, è una delle strade che riguardano la possibilità individuale di fuoriuscire, ma questa possibilità individuale non fa mai riferimento a un contesto collettivo, ma fa sempre riferimento a delle tappe prestabilite nella quale vince l'individuo, non la collettività. La lotta per la sopravvivenza, tutti sappiamo benissimo cosa sia, ma potremmo contrapporla oggi alla questione del mutuo appoggio. La lotta per la sopravvivenza è un dispositivo che conoscono tutti, in tutto il mondo, ma forse c'è la necessità di creare una contronarrativa più che una teoria. Lavorare sulla questione di ridistribuzione delle problematicità di ogni singolo individuo, e individuo è maschio tra l'altro, ecco, questo più o meno ciò che spero di essere stato abbastanza chiaro. Maschio, l'individuo è maschio, non è plurale, non ha una possibilità di divenire molteplice, per dirla con Deleuze. Esso è chiuso all'interno di una possibilità che non può far riferimento se non a se stesso. E il fatto di riferirsi solamente a se stesso porta, no, tranquillo, porta a un'impossibilità di un concepimento di nuove modalità che possano contrastare ciò che è stato spiegato nei tavoli precedenti. Ok, continuiamo questo tavolo, adesso dico qualcosa io, e riguardano le trasformazioni della sensibilità e la critica, no, abbiamo detto. Poi c'era quella cosa, chiacchieravamo prima del quartiere San Siro, dopo ci arriviamo, ci siamo organizzati così, visto che siamo gli ultimi due, facciamo due brevi interventi, poi riprendiamo brevemente io e lui una specie di dialogo, forse, ok, come dicevamo prima. No, io anch'io cercherò di essere breve, nel senso che avevo anticipato stamane, cosa è accaduto durante la pandemia, no? Tante cose, tra cui modalità diverse di apprendimento, apprendimento nel senso ampio del termine, no? Non solo, diciamo, fare scuola. Apprendere, per esempio, un paio di appunti, abbiamo appreso per esempio molte pratiche, scaricarci app, combinazioni di vari programmi, tecniche operative lavorative, e direi che abbiamo appreso però a operare, forse a essere operativi, ne parlavamo con Tiziana mesi fa, forse fin troppo facilmente, no? L'idea di voler funzionare come società, diciamo, usiamo questi termini, sempre meglio, no? Più velocemente, con meno attrito. durante tutto il periodo della DAD, mi riferisco a questo. Ecco, in quel quadro, in questo quadro, come trasformazione della sensibilità è accaduto molto dei corpi, delle psiche, della nostra psiche, e io mi sono un po' concentrato sul tema dell'attenzione, quindi fornisco proprio un paio di appunti su questo, non di più, anche nel lavoro per i mille piani che poi uscirà. Allora, che tipo di modificazioni? Beh, intanto abbiamo, tollerato questa forma di indifferenza un po' sonnambolica di fronte a stare tante ore davanti allo schermo, tutto sommato ci siamo abituati, ma anche la struttura dell'attenzione probabilmente è modificata, e comunque i ritmi circadiani, il rapporto sonno-veglia, no? Lo stato di sonnolenza, di indistinzione tra quando eravamo attenti o meno, ecco, tutta questa faccenda qui, no? Ha subito parecchie modificazioni. Questo sarebbe il punto di partenza. Ci sono anche degli studi, anche di qualche anno prima della DAD, che li hanno indagati sul piano proprio fenomenologico. Stéphane Vial, in un libro che si chiama L'essere e lo schermo, cioè L'etro e l'écran, non è tradotto in italiano, parla di strutture tecniche della percezione. Lui si appoggia molto a Merleau-Ponty, cioè come se anche il corpo si modificasse, ovviamente in rapporto allo strumento, ma direi anche al dispositivo, allo stare, no? Al vivere, a fare esperienza, diciamo, se si può chiamare esperienza, davanti a uno schermo. Questa è un po' la premessa. E che cosa ha prodotto questo? Quella parcellizzazione, quella frammentazione a cui faceva riferimento Tiziana, causa-effetto chiaramente di questa faccenda qui, quindi lo sappiamo tutti. Forse un intristimento anche, perché chiaramente... Però allo stesso tempo la voglia di funzionare meglio, di fare sempre, no, di più questa di esporci sempre di più a questo dispositivo di apprendimento diverso, a questo cercavamo di stare attenti, di fare attenzione. Sorridevo perché fare attenzione è stato sottolineato oggi anche, mi pare, da Francesco De Mitri citando Isabel Stenger, che c'è anche, parlava dell'arte di fare attenzione nel senso di stare attenti a un pericolo. Quindi l'attenzione è sempre un aspetto anche duplice, no? Attivo, passivo, eccetera, eccetera. Allora, per concludere, mi sono un po' interessato a come, leggendo un po' di riferimenti bibliografici, a come si può ripensare, no? L'attenzione, o meglio, a come immaginare, gestire meglio questo aspetto, che è assolutamente fondamentale nella DAD, nei meccanismi di cattura, chiamiamoli così, e stando davanti allo schermo. E sono due punti fondamentali. Il primo è che, sulla base di tutta una serie di testi che adesso non citerò, cito solo uno, che è quello di un lavoro di Campo, di Enrico Campo, che si chiama La testa altrove, l'attenzione e la sua crisi nella società digitale, scritto prima della pandemia, fa vedere bene, con una serie ulteriore di riferimenti, come l'attenzione non sia effettivamente un fatto semplicemente individuale, come, no, tutta una storia dell'attenzione spesso ha sottolineato. Individuale vuol dire questo, che sono lo schema è, diciamo, del controllo. Qui secondo me c'è abbastanza il controllo in modo classico, adesso poi potremmo dialogare con Stefano se magari c'è ancora, cioè ci sono io, quindi una soggettività, lo schermo e l'altrove, c'è proprio un rapporto uno a uno, fa molto pensare al rapporto anche teologico, io è qualcosa che sta al di là dello schermo, c'è una linearità tutto sommato, l'attenzione è una condizione di funzionamento di tutto ciò, ma se invece noi partiamo, ecco la possibilità critica, tra virgolette, dall'idea più sociale, più orizzontale, le cose potrebbero essere viste in modo diverso. Per esempio, cito Enrico Campo, noi non rivolgiamo mai l'attenzione verso qualcosa in completo isolamento, ma siamo sempre in relazione ad altro e ad altri, siamo in un campo, siamo distratti mentre siamo attenti, siamo con altri mentre siamo, tra virgolette, da soli davanti allo schermo, magari non ce ne rendiamo conto. È chiaro che invece il dispositivo diciamo, del capitalismo informazionale, eccetera, delle piattaforme, eccetera, vuole andare nell'altra direzione, no? Strappare tutti questi filamenti vitali, relazionali, di imperfezioni, no? Cioè, io sono anche, dicevo, disattento in parte, mentre in parte sono attento, no? Cioè, c'è sempre questa parzialità, che è una risorsa anche della critica, c'è poco da fare. E questo deve essere preso in considerazione se vogliamo comprendere i cambiamenti indotti dalle tecnologie digitali, ma anche un po' delle possibilità di vedere diversamente questa faccenda di queste forme di controllo, di intristimento, di parcellizzazione attraverso, no, il dispositivo DAD. Perché l'attenzione avrebbe... Ma forse sto prendendo troppo tempo, un po', vado ancora qualche minuto. Ampliando anche all'attenzione il discorso sulla percezione, volendo, anche se adesso qui non abbiamo tanto tempo, però c'è un po' quest'idea per cui le impostazioni dominanti degli studi dell'attenzione tendono a criticare il fatto che dal saggio The Erosion of the Attention, cioè Il ritorno del Medioevo del 2008 di Maggie Jackson, e al classico Internet ci rende stupidi, come la rete sta cambiando il nostro cervello, il libro di Nicholas Carroll uscito nel 2011, c'è un po' questa tesi che c'è questo eccesso di informazioni che ci dà la rete e questo sovraccarico di stimoli porterebbe a un'atrofizzazione degli interessi e quindi nelle giovani generazioni, sì, visto che parlavamo di scuola, all'incapacità di stare attenti, di concentrarsi, no? Come se fosse, ecco. Di fronte a questo tipo di tesi si può, che senz'altro è consistente, cioè un po' di perdita di forza anche dell'attenzione come in questo caso fenomeno attivo, no? Per cui poi davanti a uno schermo di fatto siamo completamente in balia di quello che viene dato, eccetera, eccetera. E diciamo questi studi che ho fatto, questi riferimenti ci dicono che invece sono esistiti momenti nella storia dove questo eccesso di informazioni c'è stato e c'è stata una forma di autodifesa o perlomeno di consapevolezza. Ci può citare per esempio il passaggio dall'Ottocento al Novecento, ed è Walter Benjamin un indice per noi, ne abbiamo parlato poco oggi, però importante per un discorso critico. Sapete che ha studiato le trasformazioni, ecco, anche della città, a proposito del tavolo precedente, tra l'Ottocento e il Novecento, i nuovi mass media, giornali, cinema, radio, i diversi modi di sentire nella città moderna, ecco. Anche lui diceva c'è un eccesso di stimolazioni, di sovrastimolazioni o alternativamente anestetizzazione anche dell'attenzione, però erano sempre concepiti questa forma di attenzione come forme di sentire comune e sociale. Adesso volevo trovare il passaggio. Quando Benjamin dice nell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cioè lui intuiva questa modificazione, diciamo, di rapporti storici che poi si innesta nel piano psichico e può portare a un cambiamento anche della nostra attenzione, che non è, no, la virginale e spontanea disposizione di qualcuno davanti all'oggetto, ma è qualcosa di molto più costruito, articolato e quindi anche in qualche modo gestibile, no, socialmente. Lui diceva, nel corso di lunghi periodi storici, insieme al modo di esistere complessivo delle collettività, si trasforma anche la modalità della loro percezione, cioè delle collettività. La modalità in cui si organizza la percezione umana, il medium in cui essa ha luogo, non è condizionata solo in senso naturale, ma anche in senso storico. E vabbè, poi ci sono altri passaggi, no? Quindi questo è il primo punto, sull'altro sarà... Nel senso, allora perché faccio questi riferimenti? Perché io stamattina dicevo, siamo in un quadro abbastanza paralizzato, a mio avviso, diciamo quello che proponeva Tiziana della crisi in cui siamo e quali sono le alternative. Ecco, quindi di fronte a un uso dell'attenzione di quel tipo di cui parlavo, l'idea che l'attenzione abbia un aspetto che l'è intrinseco, diciamo così, di condivisione, di essere sempre aperta, anche se noi non ce ne accorgiamo, anzi, diciamo, il meccanismo, il trucco è proprio quello di isolarci, no? Di fronte a uno schermo, beh, insomma, è una seppur minima possibilità di risorsa critica, diciamo così. E l'altro, molto più veloce, perché il tempo sta volando, e è semplicemente una rilevazione che, ne ho già parlato, il contrasto tra l'essere attenti e l'essere disattenti. Diciamo che anche qui è un problema storico, culturale. Ci viene insegnato sin da piccoli che è bene essere attenti. Il bambino che è attento viene lodato giustamente dalla maestra. Direi che noi che facciamo questo lavoro apprezziamo che quando parliamo ci sia un minimo di attenzione. Però diciamo il problema è la parzialità, cioè dove va a finire la distrazione, la voglia di evasione, il pensare o costruire diversamente lo sguardo verso quell'oggetto, che in quel caso è la parola dell'insegnante, ma può essere un'immagine. Ecco, quindi allora diciamo l'attenzione può essere coinvolta nel dispositivo di potere, anche qui sapere potere nel senso di prima, se è povera, se non è pratica condivisa, se dimentica questa origine storica e anche sociale, e anche se si dimentica invece che al suo interno in realtà c'è molta risorsa anche di quello che è considerato il suo opposto, ma in realtà questa opposizione binaria è abbastanza discutibile. Appunto, ci vorrebbero un po' di riferimenti, ma immagino questo è un po' il percorso che avevo in mente. In realtà ha una struttura mista sia sul piano dell'orizzontalità, cioè che non è appunto un puntuale individuale, ma anche nel singolo corpo è sempre dinamica di, oltre che di attività passività che va benissimo, ma di come dire, è come un muscolo, no? Che ha delle contrazioni, ha una ritmica, per cui c'è l'attenzione, ma c'è sempre anche come altro elemento intrinseco, cooperante, ma noi tendiamo ad atrofizzarlo, l'aspetto della disattenzione, della distrazione. Cioè, a riguardo, con la riforma Gelmini, lessi alcuni scritti, articoli che uscirono, citazioni sue, lei puntò a smantellare la funzione mutualistica dell'istituzione scolastica. E quindi dichiarata di sinistra dal suo punto di vista, no? Poi concretamente, nel momento in cui trovi ragazzi e ragazze con problemi molto più grandi di loro, devi a quel punto, quanto vale questa questione dell'attenzione? Quanto vale premiarli per il loro merito di essere stati attenti e magari il migliore della classe, no? Quanto vale invece cercare di costruire un ambiente in cui essi o esse possano esprimersi anche non facendo nulla? È una questione che Basaglia pone nell'istituzione negata. Dice: all'istituzione della violenza bisogna per forza e necessariamente costruire qualcosa che contrasti, in quel caso il manicomio. E la prima cosa che fa, le prime cose che i basagliani e le basagliane attuano, è la possibilità collettivista di ridistribuzione della malattia attraverso la possibilità colloquiale. Infatti c'è una polemica trascritta, loro facevano anche 10-15 riunioni al giorno, per dirti, tra degenti, infermieri, infermiere, dottori e dottoresse, se ce n'erano ai tempi, in cui si chiedeva di aprire un reparto che per molto tempo era stato chiuso, il più difficile, e la gente diceva: apriamo il reparto, perché quel reparto significherebbe la liberazione totale dell'istituzione manicomiale per come la stiamo vivendo. E quindi il continuo processo di dissoluzione di un regime di potere porta necessariamente a una ridistribuzione in cui il medico non è più il capo del paziente, il paziente non è solo colui che sta male e che deve riferirsi al medico. Si crea una rete sociale nella quale le possibilità sono effettivamente molteplici. Quindi la questione dell'attenzione, della disattenzione, dal mio punto di vista, non può far riferimento al Ministero del Merito. Cos'è questo merito? Cioè, la possibilità di essere produttivi, di essere inseriti all'interno di un contesto di mercato, avere le capacità di costituirsi all'interno di un mercato che effettivamente, come stiamo constatando, non funziona. Quindi il merito su che base etica lo costruiamo? Esiste? Esiste come funzione disciplinare, esiste come funzione dispositiva, esiste come funzione morale. E allora, se stiamo andando verso tale ministero, forse dobbiamo raccogliere le nostre carte e, al posto che continuare a mescolare, vedere secondo noi cosa c'è sul banco. Possiamo anche fermarci qui, nel senso che sento anche Tiziana, se vogliamo dialogare su questo. Non so che tempi abbiamo. No, abbiamo ancora un po' di tempo, ma insomma, le questioni che avete sollevato sono importanti, perché io direi che abbiamo a nodo tre piani fondamentali, insomma, che abbiamo un po' indicato: i territori e gli spazi di vita, la questione dell'accesso al minimo dei diritti necessari, e l'ultimo nesso, non in essenziale, quel nesso che sembra tanto in discussione tra sapere e potere, sempre antico e sempre attuale, perché nel momento in cui da anni abbiamo declinato, no, il paradigma delle competenze che avrebbero dovuto assorbire in sé i saperi, sappiamo benissimo che i saperi sono stati completamente all'interno di questa macchina distrutti, disarticolati, nel mentre la competenza doveva essere una competenza vagamente aziendalista, perché è vagamente aziendalista, non riesce neanche a essere funzionale a questo tipo di procedura, e in ragione di un ascensore sociale ormai bloccato, inesistente, destina il ripercorrere il percorso dei padri già tracciato. Quindi siamo nuovamente, insomma, di fronte, mi pare, a qualcosa che ha attraversato tutti e tre i tavoli che abbiamo proposto, ossia il momento attuale è un momento di grande discrimine, è un momento per il quale, attraverso il quale, lo spazio non è più uno spazio condiviso, il quotidiano è un quotidiano assediato e le sensibilità, in verità, sono sensibilità schiacciate in una logica che non riesce a fuoriuscire da uno scenario preconfigurato. Perché? Perché forte è la pressione, io direi, dei diritti elementari, no? Vado in direzione di quanto indicava Gianluca prima, il bisogno in questo momento chiama l'urgenza, chiama appunto quell'urgenza che ci parla di povertà imminenti, sempre più flagranti e diffuse, povertà che non sono neanche più tanto, come dire, offuscabili, no? Per cui, come dire, la fragilità delle singolarità fatica a trovare un modo di esprimersi e di trovare ricaduta. Io insisto su questo punto, che è eminentemente politico, perché quando diciamo siamo in questa situazione è perché tutta una serie di urgenze che ci provengono da quanto è sotto gli occhi di tutti, ma ci attraversa in ogni caso, in ogni modo, l'apparente inutilità dei saperi che vengono depotenziati, no? Nella loro forza di poter essere espressione di qualcos'altro, e perché la ricaduta, se non trova in essi, che non solo sono nessi di senso, ma sono nessi di condivisione, sono nessi sociali, sono nessi di relazioni, e certamente si mortificano. Allora, io credo che noi siamo in una fase in cui le relazioni sono fortemente in crisi, perché credo che questo schiacciamento delle singolarità è uno schiacciamento che vira in direzione, come posso dire, di una mortifera autoreferenzialità, perché si sa, stiamo per spegnere quanto, no, è accaduto, e allora c'è un bisogno come di perimetrare colonialmente, direbbe qualcuno, i propri singolari territori, che in realtà, se non trovano un veicolo, un canale di interazione, non servono a nulla, semplicemente non servono a nulla. Allora, la proposta è la seguente: se non ci sono interventi o richieste di interventi, è quello di andare in pausa. E abbiamo la cena, dunque la cena è benefit di 10 euro a testa, compreso per chi è rimasto qui di 10, che comprendono la pausa pranzo veloce. Io direi che domani mattina ci diamo un appuntamento di, come dire, sintesi, tutti assieme, chiedendo agli amici che hanno avuto la pazienza anche di seguirci da remoto di accompagnarci in questo momento, poi momento del quale restituiremo sia i materiali video che i materiali, insomma, che vi manderemo per via cartacea, in modo che tutto sia il più come dire, diffuso e condiviso possibile. Ci sono... Prego, sì, è il momento... Altro, però Paolo devi venire qui, perché bisogna registrare, abbiate la cortesia, io vi lascio il microfono. Sì, certo, ma che insomma possa farsi registrare. Per le domande online. Pronto. Ma dunque, io volevo portare un esempio concreto, molto concreto. Mi è arrivata una raccomandata ieri, e dico tutto: proviene dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica, Viale Giorgio, Roma. Questa è intestata a me, ovviamente, comunicazione di avviso del procedimento sanzionatorio numero, un numero infinito. Poi ho sentito che di queste raccomandate ne vengono inviate 50.000 al giorno, circa. Quindi comunicazione di avviso del procedimento sanzionatorio. Gentile tale, cioè è riferita alla mancata vaccinazione della terza dose. Io non ho fatto la terza dose perché mi sono ammalato, ovviamente. Avevo la giustificazione del medico. Quindi mi dice che entro 10 giorni dalla presente devo comunicare all'azienda sanitaria locale competente, che sarebbe la ASL della mia zona, credo, per territorio, l'eventuale certificazione relativa al differimento all'esecuzione dell'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. se non faccio questa cosa entro 10 giorni e poi la devo inviare all'ufficio del fisco, sempre entro 10 giorni. Ecco, questo significa che rispetto a quello che ho sentito qui prima, ma forse non ho sentito tutto, mi sono assentato anche un momento, soprattutto nell'ultimo nostro cosa, quando tu hai parlato di potere neocoloniale, patriarcale o capitalista, no? Ecco, secondo me ce n'è un altro che non è saltato fuori in questa discussione, no? Straordinariamente bellissima, molto filosofica, molto, però dove nel concreto mi sembra che manchi qualcosa, forse io sono stato disattento, non lo so. Ecco, oltre al neocoloniale, patriarcale e capitalista, mi sembra che ci sia un altro che dipende dal potere tecnologico, algoritmico, no? Basato sul potere non di supercomputer, ma di una supercomputerizzazione diffusa. Cioè la società ci ha obbligati, o noi ci siamo fatti obbligare, a vivere con dei computer. Adesso il potere li sta usando, il computer o il telefono, ognuno di noi ha questo telefono che è una specie di computer, no? Ci manda i messaggi, questo è il controllo, ci obbliga a fare delle cose. Questa supercomputerizzazione vissuta vuol dire che c'è un potere centrale, questa lettera significa che c'è un potere centrale, globale, potentissimo, verticale, piramidale. Mi viene in mente, scusate, magari io sono un po' visionario, il triangolo di Dio e quindi divino addirittura, a cui il singolo deve sottostare in un modo coatto, cioè non può più rivoltarsi. La parola rivolta di Camus, che è la parola mia, non è più ammissibile. Camus oggi non potrebbe dirla. Ecco, credo di essere stato abbastanza confuso e mi fermo qui. Grazie. Provo a rispondere velocemente rispetto al tema che ho proposto sulla questione. Grazie a Paolo. Grazie a Paolo. Sì. Così. Sulla questione individualista. Questa cosa è scaturita accelerando attraverso la pandemia, ma è ovvio che la responsabilizzazione del singolo e la capacità diffusa delle istituzioni di diventare sempre più virtuali pongono le professionalità in crisi. A questo punto colui o colei che debba accedere a un servizio sanitario in qualche modo è responsabilizzato lui stesso o lei stessa a entrare in contatto con degli apparati burocratici che non necessariamente conosce. Forse questa è un po' la chiave, la questione delle app che portavi prima tu, Igor, è un po' questo. Attraverso cioè l'app della banca, un sacco di deleghe all'utente che è totalmente responsabilizzato nel suo condividere, no, più che condividere, è totalmente responsabilizzato nel suo modo di usufruire ciò che in teoria sarebbe suo per diritto, anche in un modello successivo alla Seconda Guerra Mondiale, comunque faceva riferimento a delle istituzioni, ma questa possibilità di ridistribuzione del diritto era forse più agevole. In questo modo, oggi, ognuno di noi è utente e responsabile di se stesso anche per questioni che non fanno riferimento alla sua figura professionale. Ecco, non ho detto nulla di incredibile, ma... Ah sì, c'era Tommaso. Eccoci, che voce. Allora, su questa cosa che hai detto, volevo parlare con Igor riguardo all'attenzione, no? Però su questa cosa mi viene in mente un'esperienza che ho avuto ieri. Io faccio l'insegnante e in una mia classe c'è un ragazzo molto giovane, 14 anni, che ha una disabilità intellettiva importante, il quale frequenta un centro pomeridiano per l'aiuto allo studio, no? E allora ieri sono andato su internet a vedere un po' cosa fanno in questo centro e ho visto che c'è anche una specie di accademia aperta in cui fanno vari corsi e uno di questi corsi è Introduzione allo smartphone. Ho pensato che è molto carino che ci sia anche un corso di introduzione allo smartphone per chi lo smartphone non ha idea di come usarlo. Per esempio mia madre non lo sa usare e questo ha un impatto su di me ogni volta, chiaramente. Detto questo, Igor... bellissima questa cosa dell'attenzione, ti chiederò poi privatamente di fare una bella foto a quel libro di Francesco Campo perché mi sembra insomma molto interessante, forse perché non ho sentito tutto l'intervento, non ho capito un po' dove si va a parare, però come dire, mettere a tema di riflessione critico-filosofica l'attenzione mi sembra una cosa intelligentissima. E a questo punto forse potrei configurare una domanda così. È vero che i processi attentivi sono un po' in crisi, diciamo così, nel senso che la gente sta sempre meno attenta. Sempre dal mondo della scuola mi vengono degli esempi. È vero, io adesso sto in un professionale, l'anno scorso stavo allo scientifico, non cambia niente, non c'è attenzione, ce n'è pochissima. Però, per esempio, le ragazze e i ragazzi sono molto bravi a fare delle ricerche. Fanno in continuazione ricerche. Poi però leggono le ricerche e non le capiscono. Cioè, non le approfondiscono. Quindi è vero che c'è un'attenzione molto frammentata fra migliaia di input che si ricevono minuto dopo minuto. Però forse, cioè, è proprio il discorso dell'approfondimento che viene a mancare, cioè un'attenzione che è più geografica, che però non, cioè, è più arcipelago, no? Arcipelago di stimoli e non si va mai dentro, ecco. E per quanto riguarda la passività, sentivo la contrapposizione attenzione-disattenzione, pure questo tema della passività mi sembra interessante, no? Però non ci vedo, ahimè, una forma di resistenza. Magari sbaglio io, non lo so. Cioè ci vedo soltanto un po' un no future, un po' punk, come dire. Cioè un po' una resa. Un po'... ecco, un po' una resa, la dico così. Grazie. Grazie Tommaso, sì, lì c'è il libro, questo libro è di un sociologo, quindi trovi moltissimi dati come sempre, ma grazie per la tua sollecitazione, no? E io ho stretto molto, cioè attenzione, intanto non è una cosa originale, cioè voglio dire, i filosofi se ne siano occupati, sai benissimo, anche Husserl la metteva proprio una cosa importantissima, però voglio dire, questo, ma al di là di questi dati... vengo al punto forse che ci interessa anche di più qui a Mille Piani, è una cosa veramente complessa, cioè forse bisognerebbe ragionare su un po' di fenomenologia anche proprio di come cosa succede quando qualcuno fa attenzione, cioè questo verbo, no, che è una pratica. Quindi diciamo la compresenza di un aspetto passivo, no, quando stavi davanti alla TV, ormai siamo nell'epoca di internet, però c'è stata l'epoca dove chi stava davanti alla televisione doveva essere abbastanza attento, ma anche passivo, nel senso di beccarti tutta la pubblicità. Questo penso di non dire niente di, ma forse è un po' così anche con internet, se ci pensi. Quindi il potere sa benissimo capire i ritmi circadiani, il funzionamento della psiche, cioè tutte queste cose, per capire dove no andare ad agire, talvolta sulla parte più passiva, altre volte invece su quella attiva, perché c'è anche l'attenzione attiva, diciamo. Quindi, e quando sei dentro quelle cose lì strane, le aule, con delle persone che dovrebbero teoricamente ascoltarti o magari stare attento a quello che scrivi alla lavagna, e che cosa succede? No, nel senso, lì ci sarebbe l'attenzione condivisa di una classe, adesso senza dare al termine classe, è troppo risato. Succede qualcosa, cioè non può durare 6 ore al giorno, cioè chiaramente sono momenti dove lì c'è un'attività probabilmente del corpo, cioè del corpo, della parte corporea, no, della comunicazione. Sì, quindi no, in parte è vero quello che dici, non è solo passività ma è anche attività, mettiamola così. Solo che quando, appunto, dicevo io, si sta davanti allo schermo tante ore durante la DAD, tutti noi, ma anche per lavorare, lì mi sembra che a volte succede qualcosa di veramente agghiacciante, cioè nel senso che il potere riesce a beccarti proprio, sia quando tu provi a fare qualcosa anche di attivo, perché credi di farlo, però in realtà sei già dentro un algoritmo, cioè cose che a quando sei passivo anche lì provano ad agganciare, quindi uno dice... Diciamo che lì la situazione è abbastanza drammatica, dicevo appunto stamattina, non è che ci siano... Però ecco, ripartire invece invertendo tutto il film, provando a tornare dall'inizio, forse nelle scuole effettivamente, il vecchio tema dell'educazione fatta magari con altri modi, dove tu inizi sin da sai che adesso negli asili, mi pare della Svezia, dai 0-3, c'hanno già adesso i cellulari per provare a fare qualche cosa di gruppo con l'affettività della maestra che ti spiega, o del maestro, insomma, ti spiega, insomma, ripartire proprio da un altro punto di vista. Comunque, vabbè. E su Camus una cosa veloce. Ah, c'era Francesco, vero? Ma dico la cosa su Camus che mi ha detto Paolo, che anche a me piace moltissimo Camus, però sono d'accordo anch'io, avrebbe difficoltà oggi. Che cos'è un uomo in rivolta? È un uomo che dice no, però dice anche sì. E quindi sì, e poi quando dice uno schiavo per tanti, più o meno, per tanti decenni ha fatto sempre, ha obbedito a testa bassa, a un certo punto decide di ribellarsi, no? Cioè così. E mi è sempre piaciuta quella pagina. E quando dice mi rivolto, dunque siamo, ovviamente. E il problema che dici tu, ma su cosa facciamo leva rispetto a questi meccanismi, questa parcellizzazione, quasi polverizzazione dell'aggancio, diciamo dialettico, per semplificare, è un bel problema, sì, sono d'accordo. Volevo solo dire che c'è molta sintonia su questo. Così. Come? Non ho capito. È un problema da affrontare, sì, però... Sì, però quella cosa del noi, comunque mi rivolte, dunque siamo, cioè comunque si può anche dire di no, certo, non è così semplice, perché siamo d'accordo che... non mi ripeto. Ok, sì, scusate. Adesso passiamo la parola, in quanto coordinatore del tavolo, passerò la parola... mi ero dimenticato, scusate, di dire che Pier Giorgio non è con noi, che è l'altro nome, vabbè, l'abbiamo detto stamattina, purtroppo non è potuto essere qui, quindi siamo solo io e Ivan. Però adesso le domande, Francesco Demitri, giusto? Che è a distanza. Sì, no, in realtà era una cosa velocissima che già hai ripreso poco fa, nel senso che quello che dicevi, diciamo, sulla questione dell'attenzione della DAD, personalmente è una cosa che mi interessa molto, Vorrei semplicemente condividere con voi il fatto che ritrovarmi negli ultimissimi anni a seguire tantissimi incontri, lezioni, seminari, quello che volete, tramite piattaforme come Teams, Zoom, eccetera, mi ha portato, forse adesso sto cominciando a uscirne, ad avere un'enorme, ma veramente enorme difficoltà a usare il PC anche solo per mandare un'email. Anzi, più che difficoltà, forse ho vissuto un doppio movimento di repulsione, di sbarra di stacco verso tutto quello che richiedesse una particolare attenzione davanti allo schermo del PC, mail, incontro online, scrittura. Cioè, ho anche smesso di seguire percorsi, dei percorsi a cui tengo molto, perché non riuscivo a stare attento a, utilizzando le piattaforme, e quindi volevo ringraziarti per aver fatto emergere anche questa questione. E poi vorrei scusarmi perché domani, purtroppo domani mattina, io sarò in aereo di ritorno a Bologna e non potrò partecipare domani mattina, solo questo. No, Francesco, scusate la voce ormai rauca a quest'ora, grazie a te. La questione, a mio avviso, insomma, nelle scuole in questi anni è successo qualcosa di enorme, che tocca un po' i fondamenti della formazione di una società. Poi è una forma nuova di alienazione, c'è poco da fare. Io stessa mi rendo conto che a fine di utilizzare questi dispositivi sono molto meno attenta, molto meno capace di elaborazione e sintesi. In ogni caso, noi ci diamo appuntamento stasera per chi resta a cena qui, e poi domattina sempre alle 10 ci diamo appuntamento per una rapida sintesi e messa a punto delle tematiche emerse. Davvero grazie a tutti, grazie alla libreria Calusca, Cox 18, all'archivio e a tutti gli amici che hanno contribuito a questo sforzo. Ciao a tutti.